che voi siete delle iene, siete dei sciacalli, siete delle merde! La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Sai che non va la vita come ragazzo mio. Ci son volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Le zanzare che pungono me sono le stesse che poi pungeranno te. E tutto questo perché con tanti galli che cantano non si fa mai giorno. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Chi chi chi, co co co, culo culo culo culo culo qua qua. Con tanti galli che cantano. Chi chi chi chi chi. Troppe galline rispondono. Se i piccioni spariscono, tutte le papere piangono. E se domani pure tu, ragazzo mio, vedi un'aquila lassù, tu vai con le gambe che hai in un posto che sai. È indispensabile nell'interesse generale proseguire nella realizzazione degli impegni di governo. Il governo Letta, sul piano della politica economica, finanziaria, sociale dell'iniziativa europea e insieme del cronoprogramma di 18 mesi per le riforme istituzionali. Insomma, è arrivato Napolitano e ha messo tutti a posto, ha messo a posto soprattutto Renzi. Perché stai dormendo, Davide? Che succede? Che cosa? Ti sei annoiato sentendo Napolitano? Scusa. È necessario ribadire in questa fase difficile politica del paese. Ha messo a posto Renzi soprattutto, no? Ha messo a posto Renzi soprattutto, no? Renzi, puntata dedicata al signor Matteo Renzi, che è riuscito a portare dalla sua parte solo 3 pretoriani. Numero 3 pretoriani. Caro il mio sindaco della città di Michelagnolo. Ma non faccia il cretino, non faccia il cretino. No, faccia la cretina lei, signora. Ancora il busto di Almirante non l'abbiamo trovato. Non l'abbiamo trovato. Ci sono segnalazioni. Dove? Dove ci sono segnalazioni? Nell'isola di Ponza, perché l'isola di Ponza, dove c'è in corso la rassegna che abbiamo costruito la marchetta con Sir Nunzio, eccetera. E hanno segnalato la presenza, perché lì andò al confino Sir Mussolini. Sì. E lì hanno segnalato la presenza del busto del Sir Almirante. Dunque. Non ti attaccarmi. Sì, d'accordo. Non vuole che l'aiuti, però. Abbiamo una segnalazione importante dall'isola dopo di Ponza. Mesi! Facciamo mesi. Convergere auto mesi. Della polizia, ricercatori del Ministero dei Beni Culturali, dei cimiteri di Roma, verso l'isola di Ponza. Secondo qualcuno però ci sarebbe il busto di Almirante nell'ufficio di Sir Gubitosi. Come l'ufficio di Gubitosi? Contraddizioni, sono segnalazioni contraddizioni. Il padrone della RAI, Sir Gubitosi. Ci sono, non lo so. Fassina, sapete chi è, no? Viceministro, eccetera, eccetera. Forse molti di voi, camionisti, tassisti, non lo conoscono. Comunque, Fassina dice che Renzi è un irresponsabile. No, io penso che c'è qualcuno che strumentalizza le difficoltà che il governo ha e irresponsabilmente gioca con la pelle degli italiani, perché alimentare problemi per disegni di potere. Il grande sconfitto dunque di questa partita, che Napolitano ha dichiarato chiusa, game over per tutti, nel bene e nel male. Alfano non si può toccare secondo Napolitano. Può piacere o non piacere, ma è così. Il grande sconfitto si chiama Matteo Renzi. Sentiamo adesso Bisignani. Sai, sono Bisignani, come? No? Sono Luigi. Bravissima persona. Cadospide, qui da noi, Persona ottima, allora, no? Sono Bisignani. Berlusconi, brava persona, Berlusconi. Berlusconi dovrebbe riportare Alma in Italia. Senti Presidente, noi qui abbiamo fatto un grande pasticcio. Ridacci per favore la donna e la figlia, perché altrimenti questo dissidente, che è pieno di soldi, farà su questa storia un pasticcio colossale e metterà veramente in cattiva luce te. Per cui rimandacela. Ci sono volpi di quelli stufanti di là, mille topi tutti per te. Beh, il governo che rinvia tutto, l'IMU, l'IVA, gli F-35, eccetera, però ha rinviato le due in Kazakistan molto facilmente, diciamo, ha rinviato anche quelle molto facilmente. È stato facile per questo governo. Mi piace chiamare Renzi Lamentino. il lamentino Renzi, Pianina. Pianina dice di essere stufo del partito, forse in realtà ha stufato un po' lui. Tutte le papere piangono. No, volevo dire una cosa importante sulla vicenda del Kazakistan. Voglio segnalare a tutti che c'è un signore italiano di 58 anni, un manager, ex manager dell'ENI, che è stato condannato a 13 anni perché aveva un etto e 20 grammi circa di hashish. 58 anni, ha preso 13 anni. È in galera in Kazakistan. In galera in Kazakistan da 3 anni circa. Per uno spinellino. Praticamente sì, per uno spinello che si faceva insieme agli amici, catturato, condannato, ha fatto appelli a più riprese a vari governi italiani, in particolare al governo Berlusconi. E chi ha detto la signora Bonino, ad esempio? Anche, però non si fa nulla per adesso, non si riesce a fare però nulla. Però noi abbiamo mandato madre e figlia lì in Kazakistan. Ma non siamo capaci di riportare un italiano che per un etto e 20 grammi di hashish è rinchiuso da 3 anni in prigione in Kazakistan. Ma non potremmo mandare in Kazakistan il signor Mandalà? Mandarà. Il suo amico Mandarà dei 5 Stelle. Lo mandiamo in Kazakistan, visto che voleva abbandonare l'Italia, e ci riprendiamo il compagno dell'Eni che si fumava la cannetta. Questo potrebbe essere un'idea, una buonissima idea. Allora, senti questa cosa. Dai, come diceva Mughini, dai. Perché dice, dai, Mughini, dai. Stefano Gabbana, 2008. Sai, sì, ho Gabbana, no? Sì, ho Gabbana. Dolce? Io conosco Dolce. No, Gabbana. Che è l'amichetto. Nel 2008, sì, l'amico, ex compagno, tra l'altro. Molto ricchi sono, sono lasciati. Molto ricchi, anche condannati per evasione fiscale. Si sono lasciati. Primo grado, credo. Si sono lasciati. Sì, tempo fa, ma non ce ne frega niente adesso. E che nel 2008 rivelò che Clio Napolitano disse a Naomi Campbell che era una negra di merda. Ma non te lo ricordi questo episodio? Sì. Clio. Stefano Gabbana, 2008, alla Campbell, brutta negra. Lui dice. Poi no, se non cioè lui diceva che la signora Clio. Sentiamo. Ma devo dire la verità. Cosa fa? Allora, noi eravamo in terrazzo, dopo pranzo, non dico le parolacce, però le ha dette. Non dire parolacce. Ma l'ha detta lei, mica io. A lei ha la detto signora le Clio l'ha detta lei. Ma perché? Cosa facevamo? Allora, stavamo pranzando, alle 3 del pomeriggio parlavamo, eravamo 15, un gruppo di amici, si ascoltava un po' di musica. A un certo punto si apre una finestra e vediamo questa specie di spettro che grida. No, dai, anziano, la moglie del presidente della Repubblica. Ma questa signora. Questa signora scompigliata. La signora anziana. Dicendo che eravamo facendo un riposino. Dicendo che eravamo dei delinquenti, farabutti, disgraziati. C'era Naomi Campbell e dice quella brutta negra di. No, non ci credo, non ci posso credere. Tu vai con le gambe che hai. Non posso crederci. Intanto Mandarà, 5 stelle, il filmmaker, quello che fa le riprese, sempre dietro Grillo, che voleva abbandonare l'Italia. Ci sfida, dice, ma non si sa perché. Noi lo pigliamo semplicemente per il culo, per quello che ha detto una volta. Cioè, non ce ne frega noi. Niente. Senti. Mandarà. Senti. Vi saluto, vi ringrazio, un abbraccio a tutti quanti, un saluto ai miei amici Cruciani e Parenzo. Ecco, ieri ho ascoltato il podcast, finalmente, dalla puntata di venerdì, dove si divertono a prendermi in giro. Sono molto onorato di essere preso in giro da loro due, sono veramente molto simpatici. Cari Cruciano e Parenzo, se mi sentite vi sfido, andate a guardare il video che parla della denuncia di Matteo Cerasuolo. Se ne parlate in diretta, poi vengo in trasmissione da voi a parlarne tutti insieme, se volete. Un abbraccio, chiudo. Beh, noi ti abbracciamo, anche noi ti abbracciamo, e vedremo dopo, non lo so, adesso poi vedremo. Matteo Cerasuolo, un cittadino italiano. Cerasuolo, cittadino italiano indagato per calunnia dopo aver denunciato le massime cariche dello Stato. Va bene. 800 24 00 24, è con noi Mario Borghezio, europarlamentare della Lega Nord. Ben ritrovato. Ciao Mario, come stai? Tutto bene, buona Padania a tutti. Ecco. Ancora questa Padania. Dalla moderazione padana, un saluto. Ma moderazione. Manigoldi. Beh, Manigoldi. Manigoldi, sì, è vero, hai ragione. Però se noi siamo Manigoldi, tu cosa sei, Mario? Onestamente vengo dalla vostra scuola. Dalla scuola dei figli di puttana, no? Non osavo esprimermi con tutta questa sincerità, però nel mio pensiero. Però devo dire la verità. Comunque devo dire una cosa. Io avevo già una grande stima del Presidente della Repubblica, ma la moglie è gigantesca. Ma perché dici così? Ha ragione, Mario. Se una dici per quella frase sulla Campbell, no? Beh, No, no, scherzi a parte. Ma no, ma non fare il moderato, devi essere sempre sincero, Mario. No, io no, no, adoro Mario Borghetti. Io devo dire quella, la verità, quella frase non è da approvarsi, perché la signora Campbell non è brutta. Ah, in quel senso là, beh, certo, certo. Ma corretta. È molto è meglio la Campbell della Chieng da quel punto di vista. A livello ci vuole di belle... anche poco. Ci vuole poco. Che c'è? È una però, signora, sì, dai. Ci vuole vabbè, poco. Siamo, sarebbe a confrontare, non lo so, me con un attore è giusto. Di Hollywood. Voglio dire, la signora Chieng ha meriti nascosti che hanno indotto i gerarchi del Partito Democratico a nominarla. Non un pazzo estremista come Borghese, sì, ma sì. Un pensatore lucido, un editorialista del Corriere della Sera. Sartori, quello sì. Che scrive sul Corriere della Sera su sì. Questa nomina, beh, il problema qualcuno dovrebbe porlo al Partito Democratico. No, ma la questione è questa, Sartori ha scritto nero su bianco e nessuno gli ha dato del razzista, che la Chieng secondo lui è incompetente. Ma è la stessa cosa che dicevo io, certo. Beh, con qualche parolina in più. Usa un linguaggio più forbito. Io mi sono solo domandato se, in maniera retorica, perché la risposta chiaramente era no, se la persona era adeguata per rivestire quella carica. La risposta chiaramente era no. E poi tutti i successivi, devo dire, rarissimi incontri che la ministra ha avuto, o voi con la stampa, voi... parlo di dibattiti, voi con noi parlamentari, noi ne abbiamo avuti due in Europa, hanno confermato a tutti la modestia del personaggio. Che a me ma è modesto in che senso? Modesto in che senso, Mario? Modesto, proprio modesto nel senso dimesso, anche dimesso, anche dimesso. No, voglio dire di competenza tutta da dimostrare, da verificare. Competenza molto scarsa rispetto ha un'importanza, ha un ruolo, il ministro dell'integrazione in Italia non c'era mai stato, se si decide di fare una cosa del genere, un governo di emergenza, cioè lo affida a una persona, diciamo, di assoluta competenza. L'incompetenza, però torniamo su una vicenda, caro Mario, il signor Farinetti, padrone di Italy, Oscar. Fondatore di Italy, ospite qui dai due manigoldi, mi piace questa definizione che ci hai dato, anche perché, come dire, definire noi manigoldi, definiti da Borghezio manigoldi è un punto d'onore. Il signor Farinetti ha detto che tu... Simpatico, beh certo. Possiamo ascoltare? No, però... Farinetti ha detto che tu e Calderoli siete indesiderati, graditi. Innanzitutto siete delle scimmie. Scimmie non ha definito delle scimmie nel suo Italy. E non potete entrare nei suoi ristoranti Italy. Come la mettiamo? Allora, due cose. Per queste dichiarazioni, naturalmente, il signor Farinetti merita il premio Der Stürmer 2013. No, il premio perché perché definizioni di questo genere nella politica mi ricordano il gotico. Della testata di Der Stürmer, siamo ignoranti noi. Un quotidiano, diciamo così, che anche nel falso regime del Bassetto era considerato direi quasi andiamo al sodo, Mario, super estremista, direi il premio il massimo del razzismo. Sì. Ma c'è un motivo. Beh, tu dai del razzista a Farinetti. Tu dai del razzista a Farinetti. Né io né Calderoli andiamo mai al ristorante ad Italy, nel locale di. Non ci andiamo normalmente. Perché? Perché non siamo pescatori. Cioè? In che senso? Perché in data 27 marzo 2010, mandati dal pretore di Torino, dottor pretore capo, procuratore capo, dottor Guariniello, la Guardia di Finanza ha sequestrato nei locali, far entrare nemmeno Calderoli, delle scatole di alici con le larve. E siccome né io né Calderoli siamo pescatori, non andiamo lì. Le larve le andiamo a cercare altrove, ma non siamo pescatori. Se fossimo pescatori sarebbe interessante andare. Ah, perché in questo modo avete delle larve a disposizione. Lì, secondo quanto ha trovato, gli hanno dato anche 20.000 euro di multa. Vabbè, ma sono cose che possono capitare. Possono capitare. Non andiamo lì. Vabbè, siamo su Bumani, quindi. non veremo accolti. Non sei particolarmente colpito però, Mario, da questa definizione, subumani, scimmie che vi ha dato Farinetti. Non sei particolarmente colpito. Solo ho il traffico, torno tra un secondo, non ti preoccupare. La Zanzara. Siamo qui, signore e signori della Zanzara, 800 24 00 24, il numero magico per entrare in collegamento con noi dopo grandi telefonate, filo diretto come al solito con il pubblico della Zanzara. Grandissimi ospiti, Matteo Renzi, ma insomma, non è vero, tutto il gruppo dirigente del Partito Democratico che avrà microfono aperto per parlare e raccontare di questo psicodramma. No, non è vero, non calca mai. Allora, Mario Borghezio è con noi. Da dove è collegato? Però, da dove sei collegato, Mario? Renzi però è molto simpatico, Da dove sei collegato, Mario? Sì, tu sei un renziano. No, non sono renziano, ma ultimamente mi è simpatico. Prima di tutto perché rompe i coglioni al governo. Hai ammazzato Renzi. Lo rende simpatico, cioè, sì, è direi un sommergibile. E poi per il suo parlare mi ricorda molto il fascismo toscano. Ma come? Beh, questo è buono. In che senso ti ricorda? Questi scapestrati del fascismo. D'altronde lo sanno tutti, che erano tutti fascisti questi qua, dei GUF fiorentini, sì, Laziali, per quello c'è. Beh, tu hai sempre in testa sempre il fascismo. Sono tutti antifascisti. Scusa un attimo, io ti voglio dire una cosa, però Mario, scusa un attimo, tu hai scritto una lettera a Napolitano, il lato simpaticamente becero del fascismo toscano. Il lato becero del fascismo toscano. Scusa un attimo. Hai scritto una lettera a Napolitano in cui ti incazzi perché dici: vabbè, noi della Lega veniamo attaccati. Io una volta sono stato aggredito sul treno. Adesso la riassumo. Non me la riassumere tu, sennò ci mettiamo due ore. Mi hanno aggredito e il processo non è ancora iniziato. E dici: beh, se non inizia il processo contro quelli che mi hanno aggredito, io mi faccio giustizia da solo. Che vuol dire? No, io dico semplicemente che stando così le cose, io ho indicato il mio caso, ma ce ne sono moltissimi. No, ho capito, ma perché significa? Che significa che ti vuoi fare giustizia da solo? Noi siamo stati più volte vittime e protagonisti di processi come vittime di aggressioni, e li hanno sempre assolti tutti. Vabbè, ma che vuol dire farsi giustizia da soli, Mario? No, io non. Diciamo, questa è un'interpretazione. Un po' forte del mio pensiero, probabilmente tu leggi nel mio pensiero. Sì, come io non l'ho scritto perché al Presidente della Repubblica non potevi dire questa, però certamente ho posto una questione che mi permetto con molta. Senti, ma una volta tu andasti con dare una sveglia. Aggredire verbalmente e soprattutto fisicamente i leghisti dovrebbe essere reato anche in uno stato come il nostro, che voglio dire che c'è? Lasciamo che perdere, ecco, lasciamo scusa perdere. Un attimo, ma il disinfettante tu lo scusa Mario, scusa un attimo, fatemi terminare il pensiero. Nel momento in cui si comporta in questo modo, cioè se un leghista dice una mezza cazzata viene condannato a morte politicamente parlando, e quando invece vengono i leghisti vengono aggrediti, non io ma altri anche, non succede niente, vabbè, non solo a parole, non succede niente. Questo significa che siamo in una democrazia mafiosa. Vabbè, scusa una cosa, oggi in Lombardia hanno deciso di non dare l'assistenza pediatrica ai bambini irregolari. Che vergogna. Cioè i bambini clandestini non possono. Sei d'accordo? Non ho capito. La Lombardia nessuna assistenza pediatrica ai bambini degli irregolari in Lombardia. Su una cosa di questo genere direi che ci dovrebbe essere molta prudenza. Io non sarei così tranciante su una questione di questo genere, perché questa veramente può riguardare i diritti umani. Questa veramente addirittura. Ma tu sei interessato ai diritti umani, Mario? Quindi no, io dico che dai, su Borghezio è interessato ai diritti umani, e solleviamo il problema dei diritti umani sul caso della bambina kazaka, poi noi che possiamo dire, e noi l'abbiamo comunque a te la Lega non ti ha difeso altro, così altro è imporre ai genitori stranieri i doveri, quindi i doveri e anche sanzioni pesanti. Per esempio io dico che non è che si debba essere così duri su questo punto, ma bisogna essere duri per esempio nei confronti dei genitori bimbi nomadi che vengono mandati a questuare, a quelli bisogna togliergli la paternità, portarli via i bambini. Bambini e metterli e affidarli. Senti una cosa, ma il disinfettante, che tu una volta portassi sul treno a fare una goliardata, chiamiamola così. Beh, insomma, goliardata. Beh, io rivendico perché sarebbe utile ancora utilizzarlo questo disinfettante ogni tanto? Ma diciamo che è una domanda che bisognerebbe porre all'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato e a tutti quei cittadini che a differenza di me usano il treno perché no, ma al di là del treno, al di là del treno, il disinfettante va utilizzato qualche volta quando si incontra qualcuno, secondo te? Ma diciamo che un Farinetti vorrebbe usare di più, vorrebbe usare lanciafiamme verso me o Calderoli osassimo pensare di entrare nei suoi negozi, nei suoi negozi miliardari. E quindi sono altri che vogliono impedire a noi della Lega di la libera circolazione comunque Davide Borghezio noi, Borghezio è chiaramente a favore della noi separazione, non rispettiamo nessuno. Beh, tu hai rispettato però rispettare questa democrazia mafiosa, questa sì. Vabbè, questa democrazia diciamo mafiosa, che dalla Chieng, tu col disinfettante ci andresti, dai, su, diciamo la verità. Cioè... dalla Chieng non ci andrei col disinfettante perché mi sembra una persona pulita, anche non solo dal punto di vista fisico, mi sembra anche una persona intellettualmente onesta, però di una modestia direi eclatante. Lo sai, che oggi un assessore leghista ha messo a confronto una foto di uno scimpanzé, una accanto all'altro, la foto di uno scimpanzé e la foto della Chieng, no, ancora una accanto all'altra accostata. Ma queste sono reazioni che voglio dire erano immaginabili, no? Nel momento in cui nel momento in cui si perseguita, si calca la mano, questa condanna a 13 mesi di quella poveretta che è un momento di esasperazione ha scritto su un Twitter quella frase che ovviamente tutti disapproviamo. Ho capito, come poveretta? Ha incitato allo stupro della... nel senso che non si danno 13 anni per due parole scritte su Twitter. 13 mesi. Beh, poveretta, ha scritto delle cose gravissime. 3 anni di interdizione dai pubblici uffici. Questi sono, voglio dire, manifestazioni di estremismo. Ma come estremismo? Antirazzismo a senso unico. Ma è lei che ha detto delle cose orribili. Certo, ma nessuno nega che quella frase sia orribile, ma si è scusata. Comunque Mario, io ti voglio combattente, qui tu ogni tanto mi ti moderi un po'. No, per... ma io sono combattente. Ma io che combattente? Dimmi cosa faresti contro i clandestini, papale, contro i clandestini, cosa ci vorrebbe? Dimmi che si dovrebbero usare le armi, come dici sempre, contro i clandestini, estrema razio. Contro i clandestini non ci vuole un governo del cazzo come questo. Ci vuole un governo con un ministro tipo Maroni che senza usare dei metodi, antidemocratici, aveva cominciato. Comunque, Borghezio è per la separazione delle etnie, diciamola tutta. Borghezio per la distinzione. Perché no, la separazione. Tu sei per la separazione delle etnie. Ma avresti anche gli autobus separati. In questa situazione non mi pare assolutamente necessario. Non mi pare necessario. Certo. Comunque la Lega non ti ha difeso, La Lega non ti ha difeso. Ti ha lasciato solo, La Lega ti ha lasciato solo. La Lega mi ha difeso, diciamo così, con la stessa possanza viene difeso Alfano da una parte. Abbiamo perso Borghezio, esatto. Dai. Abbiamo chissà perso Borghezio. Ma io non mi preoccupo perché grazie a Dio godo. Viva l'Italia multirazziale, Mario, viva l'Italia multirazziale. Sei sempre. Non che dici? Viva l'Italia multirazziale. No, l'Italia multirazziale in quanto multirazziale fa schifo. Non l'Italia, giornale radio, ho capito. Fa schifo. La multirazzialità è una bestialità. Fa schifo. Giornale radio. La zanzara. La zanzara è quell'odioso insetto che non mi fa dormire la notte perché affonda il becco su di me. Ai ai, mi ha beccato. Ai ai, mi ha beccato. Gratta gratta, ma peggio è. Pure lo spray antizanzara mi son messo che, ma lei gira sempre intorno a me e balli su twist. Senti Rocco Siffredi, Sì. Grande editorialista della Zanzara, no, contro quelli che abbandonano gli animali. Tema di cui, francamente, come sai, non me ne frega un cazzo, lo sai, no? Non me ne frega, cioè, non sono a favore di chi abbandona gli animali. Beh, però appunto, diciamo, non mi appassiona. No, non è una cosa. No, no, però anzi, non mi avrebbe fatto una campagna di sensibilizzazione. Non mi appassiono al tema, devo dire. Cioè, ma non mi fa lacrimare vedere i cani abbandonati nelle autostrade. Però non mi appassiono. Sì, ma certo, abbandonati. Ho detto, non è bello abbandonare i cani. Però che ci dice Rocco Siffredi con questo tema? Senti. Allora, ragazzi, buona vacanza a tutti quanti. E mi raccomando, non abbandonate il vostro cane. Se no arrivo, è l'incubo. Spot di Rocco Siffredi contro l'abbandono dei cani, direi particolarmente efficace, vero? No! No. Il dramma è che qualcuno potrebbe anche piacere, come dire, no? Questo è il suo. Comunque, vabbè. Una volta sul braccio e poi all'altro, una volta nel braccio. Razzi, mitico Razzi. Giusto, da Siffredi a Razzi, ottimo. Senatore del PDL, alziamo, segretario della Commissione Esteri. Alziamo a livello. Fra poco andrà in Corea del Nord in una missione importantissima, no, in Corea del Nord. Sì, va in missione in Corea del Nord. E intanto riceve l'ambasciatore di Taiwan, l'ambasciatore di Taiwan. Che si saranno detti? No, lo riceve, poi sono stati in Abruzzo insieme. In Abruzzo l'ambasciatore. Senti. Ora segui fra le mie dita. Mi orgoglisce, come si suol dire, come si dice, che l'ambasciatore è nuovo arrivato, dopo nemmeno una settimana è venuto nel mio ufficio a trovarmi. E questo per me è, come si dice, è un bando che visto che ha tenuto tanto a conoscere il senatore Razzi. Ma com'è che si dice mi orgoglisce, no? E poi ha detto come si dice, no? Come si dice? Mi orgoglisce, no, come si dice? Mi orgoglisce. Come si dice? Mi orgoglisce. Mi orgoglisce, come si suol dire. Non si suol dire così, Razzi, si dice in un altro modo, eh. Comunque devo imparare l'abruzzese a Tania, credo da insegnare. Sì, mi dice però devo imparare. Anche ringraziare il direttore commerciale Warren, perché grazie a lui che si impegna ai rapporti tra Taiwan e l'Italia, ormai ci conosciamo da 3 anni, ha imparato un po' di italiano, però io non mi preoccupo tanto perché c'è Tania che parla quasi romanesco, parla abbastanza bene l'italiano. Adesso gli devo imparare l'abruzzese, perché visto che la vicinanza tra Roma e l'Abruzzo è perché dobbiamo sviluppare l'Abruzzo. Beh, devo imparare l'abruzzese alla signora Tania, che credo che sia una funzionaria dell'ambasciata di Taiwan o la moglie di chi, non lo so. Tania. Le magnifiche imprese di Razzi, che sta per andare in Corea, alle prese con Taiwan. Affari esteri, non lo potevano mettere in una commissione qualsiasi. Ma quale? In quale commissione lo ma mettono? Se uno non sa l'italiano, perché ma no, ma non è un po' di lingue le sa forse, ma no? In generale, dove lo metti? Che commissione lo metti, signor Razzi? TG3. Buonasera a tutti. E adesso i titoli del TG3 di Bersani. Napolitano, nessuno si avventuri a staccare la spina, se cade Letta danni irrecuperabili. Caso Kazako, inaudito, indecenti, le ingiurie razziste. Al Senato passa a larga maggioranza la linea del no alla sfiducia. Epifani, restano ombre, ma il governo vada avanti. 3 renziani tra gli astenuti. Il PDL compatto, il ministro non si tocca. Berlusconi, inventato che fossi pronto a chiedergli un passo indietro e non coinvolgetemi nel caso Kazako. Vertice tra governo e maggioranza per IMU, IVA e debiti della pubblica amministrazione. Impegno a chiudere entro fine agosto. A giudizio i 33 imputati per la strage di Viareggio, nella quale persero la vita 32 persone. A processo anche l'amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, Mauro Moretti. Palermo ricorda Borsellino, domani nessun politico a Via D'Amelio alle celebrazioni. Sul processo per la presunta trattativa Stato-mafia pesa la soluzione del generale Mori. E in cenere, i capolavori di Picasso, Monet e Matisse erano stati rubati da un museo olandese un anno fa, finiscono in forno. La madre del ladro voleva far sparire le prove, potrebbe essere accusata di crimini contro l'umanità. Siamo come lei, siamo come lei. Riccardo Riccardo da Roma. Riccardo, buonasera. Buonasera. Sì, Cruciani, sta battuta sui tassisti, camionisti, eccetera. In che l'eri senso? A tutti. Perché l'ha detta adesso. Vedi? Ma che battuta ha fatto? Non ho fatto nessuna battuta. Ha fatto, cioè, come per dire, io? Sono tutti ignoranti. Ma sono i nostri principali azionisti. Ma quando gli fa comodo? Ma quando c'era Prodi non erano suoi amici, si ricorda, Cruciani? Quando c'era Prodi? Beh, che c'entra? Attaccato, non fa niente. Poi le io dico non ho attaccato, ho detto che ero favorevole a certi cambiamenti. Poi ho parlato a lungo con tantissimi tassisti, ma sia quali? Di Milano che di ma Roma. Ma lei che cazzo ne sa? Ma incontriamoci, qual è il problema? Ma che ne sa della persona con cui ho parlato io? Delle persone con cui ho parlato? Ma non ha importanza, io dico come stanno le cose sui tassisti ma sui non mi interessa adesso parlare di tassisti e dei camionisti. Faccio un'altra cosa, così chiudiamo, perché sennò va troppo alle lunghe. La sua spalla ormai ha stufato. Pronto? Sì? Signor Pedrali? No, sbagliato. No, non è sbagliato, è lei, Agostino? Pedrali. Agostino? Pedrali? Cosa? Agostino? Le sto dicendo che è sbagliato. Agostino Pedrali. Io mi chiamo Fabio Pro, se non ci crede mi dispiace per lei. No, lei ha ragione, chi fa il numero di telefono che... Lei si chiama Fabio? Fabio si chiama. Cosa fa lei Fabio della vita? Ragazzi, se state vendendo qualcosa vendo anch'io, quindi... No, ma non vendiamo niente. No, non vendiamo niente, che fa nella vita lei? Faccio rappresentante. E okay. Che vende? Liquori, ma amico mio, quali liquori? Su. Liquori, che tipo di liquori, caro? Bevande, vino, birra e annessi e connessi. Lei è un sostenitore del governo Letta, mi pare, no? Chi siete, ragazzi? Ditemi chi siete. No, ma lei è un sostenitore del governo Letta, mi hanno detto, no? Ti hanno detto che è un grande sostenitore del governo Letta. Io assolutamente no. Ma scusi un attimo, ma lei... Ma perché vende liquori? No, perché non ci sono i rappresentanti di liquori, ci sono anche i rappresentanti di liquori che lavorano dalla mattina alla sera. No, è vero. No, è curiosiva questa fatto. Girano per tutta Italia. Lei comunque è fortunato. Sì. Perché è stato estratto a sorte tra milioni di ascoltatori della radio. Certo. Sì. Radio 24, la Zanzara, le arriveranno a casa 500.000 euro, grazie. Grazie a voi. Ma non è vero però, purtroppo, credo. È stato estratto a sorte per passare una nottata insieme a Rocco Siffredi. Quello magari anche no, però... Perché no? Qual è il problema? Si adegua, dai. Ecco l'omofobia che salta fuori. Scusi, guardi che io... Lei preferirebbe passare una sera a cena con... Ma ha capito chi siamo o no? No. No, vabbè, non fa niente, va bene così. Scusi, signor Fabio, allora la cosa è questa: lei preferirebbe passare una sera da Rocco Siffredi, gentilmente offerta dalla Zanzara, una sera ricchi premi e così via? O fare una discussione a cena col ministro Chienge, per esempio? Cosa preferirebbe? Più interessante col ministro. Io voglio capire chi siete, perché giuro non ho capito. Beh, signor venditore di liquori, su. Ha vinto una sera con Siffredi. Ma chi non c'è? Camma, ma non è Camma. Chi c'è con lei in macchina? Calma. Che radio ascolta la sera lei quando è in macchina? Non commette errori, non commette errori. Ma guarda che ho cambiato il telefono, non si capiva la voce. Sì, non si capiva la voce. Che radio ascolta lei la sera quando torna a casa? Non ho capito. È un po' come passare al bar prima di tornare. Ma chi è? Sua moglie quella, la sua fidanzata, la sua amante, chi è? Chi è? È l'amante. Dica la verità, c'ha la ganza in macchina. Lei è sposato? Lei è sposato, signor Fabio? No, ho già dato, grazie. Hai già dato? È fidanzato? Ah, questo è il secondo giro con la signora. Ci passi la signora, allora, va? È la seconda moglie o la fidanzata? Passo la signora, ma non so. Pronto? Sì. Lei chi è? La seconda moglie o la fidanzata di Fabio? Esatto. La seconda moglie o la fidanzata? La fidanzata. Ma vi sposate? È un mandrillone, signor Fabio, eh? Yes. Ah, sì? No, è così, che dalla voce sembra uno cui piacciono moltissimo le donne. Beh, molto, adesso molto. Perché non è detto. Secondo me piacciono moltissimo. Potrebbe essere. Mi piacciono moltissimo le ma donne. Ma ha capito chi siamo o no? No, vabbè, no. Non è che... Ma come no? Ma è un reato questo. È un reato gravissimo questa cosa qua. Vabbè, comunque. Vabbè, noi comunque cercavamo Agostino Pedrali. Lei passerebbe una notte con Rocco Siffredi? No. Perché no? Perché no? E lei c'ha il suo ganzo, c'ha il ma suo... Guardi che... È innamorata, dai. Vabbè, ma è una cosa comunque straordinaria passare una serata. No, una notte, una serata, mica. Si può anche non fare niente con il signor Siffredi. È innamorata. Vabbè. Vabbè. Niente. Vabbè, grazie. Prego. Grazie. Allora, Riccardo, che ci diceva? No, l'altra cosa era di Parenzo. Sono mesi con sto bus di Almirante, io non capisco come nessuno insorga, insomma è una cosa veramente ormai ha stancato. Oh, ma stiamo scherzando con sto bus di Almirante, ma lei l'ha capito o no che stiamo scherzando? Ma io ho capito, ma dà fastidio, è una vita. Lei è almirantiano, lei è missino, lei è fascista? Io sono per Almirante. Vabbè, ma non c'è niente di strano. Però ma dà fastidio anche la signora. Donna Assunta, ma un po' di rispetto. Lo scherzo è bello quando è corto, come si dice. Ma lei che no? fa il tassista nella vita? Che fa, Riccardo? Non glielo posso dire. Ma che c'è? Ma non glielo può dire? Non glielo posso dire. No, perché. Ma lo è sicuro? Perché se no avrebbe detto. No, vabbè, dicevo... Massimiliano da Prato, ciao Riccardo. Massimiliano. Sì, eccomi. Vada. Sì, no, niente, volevo rispondere a quel grullo di Borghezio, come si chiama quel... Ma non ha detto niente stasera. No, ha detto niente, cosa ha detto? Ha detto ci ha definito in Toscana tutti fascisti, renziani, mezzi... Vabbè, fascisti lui, sono stato al governo 10 anni, fascisti o la Mussolini, che cosa vuoi che venga a dire? Ma vabbè, poi? Nulla, basta. Basta, questo. Pietro, senta, provincia di Modena, stia zitto allora, Pietro, provincia di Modena. È pronto? Dica. Salve, niente, volevo parlare sul discorso di... Volevo aggiungere... Perché la voce è troppo moscia, lei ha la voce troppo moscia. Sì, perché sono in un supermercato non posso urlare. Come al supermercato? Che sta facendo al supermercato? Come anch'io, intanto girato. Certo, cosa si fa al supermercato? Lei cosa fa al supermercato? Ma che ne so, magari era il commesso, che ne so, magari era un dipendente del supermercato, mica per forza un cliente. Comunque, che sta comprando? Le pesche, le arance, le albicocche, il prosciutto? Che mangia stasera? Mangio a dieta, via. Così, allora che cazzo va a fare al supermercato se è a dieta? Famiglia. La famiglia, gli altri mangiano, lei no. Queste belle espressioni che poi lei usa è sempre molto, molto, molto gentile, molto, molto... Ma io non sono gentile, infatti, non voglio essere gentile, però dica. Infatti, si contraddistingue per questo. Niente, quando Borghezio diceva che la ministra Kyenge è modesta, io volevo ricordare sia a lei, a Parenzo, sì, soprattutto a Borghezio, la telefonata intercettata tra la moglie di Bossi e mi sa Belsito quando parlava dell'ignoranza, della poca cultura che c'era nella Lega. A voi non interessa questo perché... Ma non è che non interessa, ma che c'è bisogno di ricordare una telefonata intercettata tra chi e come? Ma di che stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che abbiamo la borsa e poi un grande ospite con noi. Abbiamo la borsa e poi un grande ospite. Borsa. La zanzara. Siamo qui, 19.34, 800 24 00 24, la zanzara, Francesco da Pisa, buonasera Francesco. Buonasera. Dica. Vada. Senta, io sono un appassionato della vostra trasmissione, mi piacete tanto, e so che sono scelte editoriali invitare in trasmissione questo, quel politico, quel personaggio famoso, quindi avete tutto il diritto. Però, ma non c'è nessuna scelta editoriale, noi vediamo chi ci piace, chi ci sta antipatico o simpatico, a seconda di quello che ci viene in mente. Certo, come noi possiamo girare canale o meno. Assolutamente. Però, sempre siamo dare, qua. Sempre, dare spesso la platea a gente chi? Che come Borghezio a me non piace. Ma no, sempre, sono tre mesi che non veniva qua, sono 3 mesi che non veniva Borghezio. Ecco, qua, è già troppo, per persone come vabbè, Borghezio è già troppo. Va bene, e quando va bene. Fa la battuta che secondo... Senta, io gli ho fatto un'intervista a Borghezio per Panorama che è stata la causa della sua espulsione, dunque sono in parte anche colpevole. Ma io lo so che voi volete finire di fare delle cose buone per quello anche, che lo riguarda, ma da un certo punto di vista sono anche... Io lo so che voi contribuite a metterli in ridicolo. Sono ringraziato da altre persone, perché gli ho fatto un'intervista in cui gli ho tirato fuori tutto quello che pensa davvero sulla separazione delle razze, queste cose qui, e lo hanno cacciato. Le carriere io conoscevo, no, delle razze, c'è anche la separazione delle razze, la follia pure la separazione delle razze, lo hanno cacciato per questo dal suo gruppo al Parlamento Europeo, per cui cosa vuole da me? È una funzione sociale quella, ma che non so se è una funzione sociale, l'ho fatto perché faccio questo mestiere in maniera un po' manigolda, ma così lo faccio. Però quando Borghezio fa la battuta della bella negra di merda o brutta negra di merda e voi ridete, a me mi è dispiaciuto, no, ecco. Ma non c'è nulla da ridere, anzi. Io sorrido, ma nello stesso tempo altrimenti dovrei litigare ogni giorno. Adesso litigherò fra poco con un'altra persona, no, è impossibile. Sì, un po' litigherò perché sul finanziamento pubblico dei partiti, un po' litigherò sui soldi ai partiti, perché la persona che è un grande difensore del finanziamento pubblico dei partiti, perché sei fondamentalmente anti. Ugo Sposetti, eccolo, buonasera, applausi di sottofondo, mettiamo gli applausi. Buonasera, si avvicini qua al microfono, non si capisce niente, se no stasera sto qua con voi, eccolo, eccoci qui. Evviva, è glorioso Partito Comunista di Gramsci, Togliatti, Longo e Berlinguer. Cioè, di trovare insieme quello piccoletto di Natta e Docchetto e quello un po' migliore di D'Alema. Non si ricorda questo? Qui. Come no? Forza. Continua. Forza, Parenzo. No, Sposetti, buonasera, come va? Tutto bene nel Partito Democratico? Novità? Tutto a posto. L'oro di Dongo? Tutto a posto, io sempre tutto a posto. Ma come tutto a posto? Allora, mi dica qualcosa di Renzi, famoso pure quando sono uscito quella sera dal cinema Capraria, che cioè? Giornalista dice: come è andata? Tutto a posto, state tranquilli. Era un disastro. Renzi che ha fatto un disastro, si è suicidato un po'. No, devi stare un po' attento, devi evitare di incontrare i giornalisti dalla mattina alla sera. Sì, primo consiglio. Troppe interviste. Poi, ma perché lo fa? Perché non deve fare il sindaco di Firenze? Un po' narciso forse. No, vabbè, gli piace, c'è una cosa. Poi gliel'ho detto, questa cosa che lui è amato adesso da Repubblica è la sua fine. De Benedetti ha ucciso qualsiasi leader. Repubblica le ha ammazzati tutti. Veltroni. No, adesso facciamo le cose. No. Cioè, De Benedetti è un remida no, al contrario. No, io parlo di generale del gruppo del giornale. Cioè, lui deve evitare queste cose, cadere in queste trappole perché si fa male. Quindi l'abbraccio di Repubblica ha ucciso Renzi. È mortale. Comunque, ma sto Renzi alla fine si è preso in saccoccia in questa vicenda di Letta e di Alfano. Solo 7 dissidenti. Io dico le cose così, con un linguaggio anche un po' crudo. Se l'è presa in saccoccia. Ma no. Che cosa si poteva fare? Ha mobilitato la sua falange per cercare di mettere in difficoltà. Voleva disarcionare Letta alla fine. Questo è chiaro, disarcionare Letta. Lo ammetta, Sposetti. Questo è ma voi due siete proprio simpatici. Ma ha la statura del leader o no? No. Ma no, lui è coraggioso, guardate, io lo apprezzo molto perché è coraggioso. A quell'età ha fatto una battaglia, ha trovato consensi, sostenitori. No, queste cose vanno rispettate. Vabbè, però ce l'ha la statura del leader o no? Assolutamente no. Sì, ce l'ha. Ce lo vede alla guida del Partito Democratico? O no? No. Perché non ce lo vede? Perché c'è un'idea, lui non ha un'idea di partito. Ma andrà via lui da PD? No, assolutamente, dove va? Dove va? Sta a Firenze. Senza PD solo noi possiamo dare così perché siamo talmente generosi. Ti accettiamo anche Renzi. Via primarie, vai e Renzi gira col camper. Adesso non so che cioè nel vecchio Partito Comunista non sarebbe mai arrivato a fare il segretario uno diciamolo. Ma al massimo segretario di sezione di Orgosolo. Intanto non fa il segretario del PD. Se diventerà segretario. Ma là non si candiderà. Perché lui in fin dei conti PD non gli interessa nulla. Non gliene frega niente. No. Lui a me piace Sposetti perché papà dice le cose. Sì, beh, chiaro, adesso ci dirà pure quanti soldi, per esempio, il Partito Comunista prendeva dall'Unione Sovietica. Io sono molto curioso di questa cosa. Sì, quanti rubli? Secondo lei, quanti soldi ha dato? No. Perché li ha dati, no? Beh, questo... Allora, guardate. C'è un libro, si chiama L'oro di Mosca. L'oro di Mosca è Gianni Cervetti, è chiarissimo. Mio amico Gianni Cervetti, grande compagno. Ma quanti soldi ha preso in tutto, secondo lei? Quanti soldi? No, non lo so, non c'erano. Tanti soldi. Poi, guardate, non erano rubli, erano dollari. Ah, erano dollari, Dollari, sì. Arrivavano, i dollari per il PC e arrivavano i dollari per la DC. Certo. Sì. Uguale, sempre dollari. Invece i socialisti prendevano le lire. No. Allora erano dollari pure per loro. Erano dollari. Sì, cioè, c'era per tutti. Ma quanti? È finita la cuccagna fra poco. Vogliono togliere il finanziamento pubblico dei partiti. È finita la cuccagna! Però è Sposetti finita. Però tutto il governo, c'è però ancora il governo tutto il patrimonio del PCPDS. Il Parlamento mette ostacoli. No, non ci sono. Ma lei ha fatto un'intervista recentemente in cui ha detto che bisogna fermare questa legge che toglie il finanziamento pubblico dei partiti. Ma lei è coerente? Io l'ammiro da questo punto di vista. No, perché non capisco questa violenza del governo e in modo particolare del suo presidente che pensa che i partiti possano vivere senza soldi, vivere in una democrazia senza sostegno pubblico. E questa è un'idea che non è un valore questo. Ho capito, però Sposetti ha visto i grillini che hanno fatto questo casino in Parlamento, no, sulla restituzione. Hanno restituito la prima tranche di luglio, c'è da apprezzarli per questo o no? No. Vabbè, ma loro non li apprezza lei? No, no, no, li apprezzo tantissimo, anzi io li ascolto molto quando parlano al Senato. Immagino. No, assolutamente. Sì, no, perché sì, formazione. Io sono una formazione, sì. Ascolto, vabbè, allora... capisco, voglio capire da dove vengono e cosa fanno, come si preparano. Insomma, vi siete tenuti il malloppo, dicono. Vi siete tenuti il malloppo. Ma no, guardate, non è il malloppo. Ma no, è la democrazia che ha bisogno. Cioè, fosse per lei, resterebbe il finanziamento pubblico dei partiti, uguale, identico, almeno per questa legislatura. Guardi, le annuncio che io combatterò ancora. Lei ha il cellulare attaccato? Acceso? C'è il cellulare attaccato? Vedi che forse è disastrosa. Forse è Bersani. Era Bersani? Chi è? No, risponda, risponda pure. No, no, niente. Allora? Adesso chiudo, scusate. No, prego, prego. Siamo alla radio, però comunque in diretta. Vabbè, non so. Vabbè, insomma. No, non è questo, perché guardate, adesso c'è la discussione alla Camera, ma quando adesso passiamo al Senato cercheremo di fare un ragionamento più nel merito. Vabbè, lasciamo perdere, lei è contro questa legge qua, cioè i soldi devono rimanere ai partiti, sono stati già dimezzati, sì, questi... E dunque, sarebbe un errore clamoroso, perché, no, perché usciamo dall'Europa, perché non facciamo come fa la Germania, la Francia, il Portogallo, la Spagna. Il Presidente del Consiglio ha promesso all'atto dell'insediamento del suo governo, partito, del suo partito, questo è il problema, non è del suo partito, questo è fuoco amico, amico mio. Fuoco amico del signor Letta, cioè lui contro di me o io contro di lui? No, è del PD. No, Letta è del PD. Presidente, no? Del Consiglio ha detto. Può pure sbagliare. In questo... avere un'idea sbagliata e uno cerca di fare certo, la corretta. Non c'è dubbio, però nell'atto costitutivo del governo c'è l'abolizione del finanziamento pubblico. Ho capito, ma non erano queste neanche le cose che abbiamo detto in campagna elettorale. Non erano. Poi... Quindi una parte della delegazione parlamentare del PD non seguirà Letta su questo. No, adesso vediamo quello che succede alla Camera. È chiaro che... Fosse per lei, rimarrebbe la legge attuale? Lavorerò perché la legge approvata nel giugno del 2012 rimanga in vita e si lavori con quella legge. Allora, i dipendenti del partito, questo... se non ci sono i soldi, tutti a casa. Cassa integrazione. Cassa integrazione. Questo hanno presentato pure un emendamento, visto. Quanti sono i dipendenti del partito? 200. No, del 200. PD, sì. Sono 200. Anni, no. Vanno protetti? Beh, certo. Perché lei non deve essere protetto. No, ho capito, però le aziende falliscono. Non è che sono tutte integrazione. Non per tutte, lei sa benissimo. Non è che la cassa integrazione vale per diciamo tutte le aziende. Diciamo che considerare l'azienda, cioè il partito un'azienda, che ha ragione Sposetti. Io ho 45 anni che lotto perché tutti i lavori abbiano tutti i lavoratori abbiano una protezione, però, quando rimangono. Però senza... chissà perché questa fretta di proporre questo emendamento sulla cassa integrazione a favore dei dipendenti dei partiti. Chissà perché. Ma quelli mangiano come lei, Cruciani. Sì, ma io non voglio che c'hanno il mudo, c'hanno i figli, c'hanno comprano schiarpe, capito, i libri. Anche, ci sono un sacco di aziende che falliscono e nessuno se ne occupa. Perché ma come questa no, cioè, come no, siamo no. Sempre, io giro l'Italia perché sta vicino a quelli ci che sono un sacco lottano. Di... No. Ma ha ragione. Quelle aziende e quei lavoratori di aziende che non hanno la protezione, bisogna fare in modo che abbiano la protezione. Ecco, però il punto è questo: il signor Renzi, ad esempio, vorrebbe che in futuro non ci fosse più nessuno che mangia coi soldi della politica. Questo è, cioè, Renzi ha una concezione per cui non vuole più l'azienda partito. Questo è il vabbè, tema. Non vuole più il finanziamento pubblico, non vuole anche se non ne parla molto. Quindi non periodo, vuole eh? Tutti questi funzionari. Che fa? Non che fa? Tento, lui è più di un mese. Più di 40 giorni che non pronuncia una parola contro il finanziamento. E che vuol dire questo secondo Sposetti? Tum, tum, tum, tum, no, io tum, guardo, tum. Osservo, guardo le dichiarazioni. È un furbetto. Cosa. No, perché anche lui ha i suoi funzionari da tutelare. Questo no, dice. Cerca, magari si rende conto che se vuole stare in un partito, quel partito per deve esistere. Il manifesto deve esistere. Cioè. Ma è un capo corrente, secondo me, lo definirebbe un capo corrente? Sì, un capo corrente. Renzi. Un po' come fu Amendola, ad esempio, no? Va bene, adesso non facciamo paragoni blasfemi. Che faccia fa? Napolitano. Ma lasciamo perdere, lasciamo perdere queste cose. Parenzo si diverte. Ma è un capo corrente o no? È ma un no. Beh. È uno che ha fatto una battaglia con le primarie libere e ci sono il 40%. Insomma. Vabbè, comunque. È un capo corrente. Diciamo, adesso è un capo corrente, cioè i suoi uomini in Parlamento, le sue... diciamo lui non si comporta come capo corrente secondo me perché è sempre libero, cioè non lo seguono nemmeno i suoi hanno una tendenza a essere a farsi fatti loro. A essere una squadra che poi magari ricevono indicazioni quando tutto è passato. Però alla fine oggi solo 7 lo hanno seguito, 3 alla fine. No, vabbè, sì. Ma quelli che si sono astenuti, uno è legittimo, magari... Vabbè, se... senta, Sposetti, io le voglio fare una domanda, ma lei si rende conto di essere alleato con Berlusconi, sì, e con Alfano, sì? No, così... Cioè si sveglia la mattina... Oppure è pure uno di quelli che fa lo schizzinoso su questo. Lei è alleato con Berlusconi e con il signor Alfano. Non sono, che con Cicchito... Deve essere consapevole, no? Alleato con... È consapevole, si vergogna? No, non si vergogna per niente, perché? No. È una fase che dobbiamo votare insieme. Dobbiamo votare Attenti, insieme. Attenti, abbiamo votato insieme pure con Monti, eh. Sì, certo, ma... Che è la stessa cosa. Dunque, non, cioè dice, non c'è molta differenza. Non ci si deve votato insieme. Dunque, non ci si deve scandalizzare su questa vicenda di Alfano, del Kazakistan, eccetera. No, no, questi sono stati un po' dilettanti. Dilettanti. Cialtroni. Alfano, Alfano. Lorenzo l'ha detto. Lui l'ha detto. No, io chiedo. Dilettanti, che, dilettanti che, Alfano, cioè, dilettante. Può essere gestito in modo diverso. Alfano è stato un dilettante. No, in generale. Ma come in generale? Quelli del governo sono stati un po'. Ah, tutti quelli del governo. Eh sì, queste cose. Beh, però il ministro degli interni in particolare, o no? No. Pure Letta. Guardate, io penso che questa cosa, se dall'inizio fosse stata presa in mano dal presidente del Consiglio, il problema sarebbe risolto. Si sarebbe risolto. Cioè, comunque, lei non si scandalizza quando uno fa affari e tratta con il Kazakistan. Alla fine li hanno fatti tutti e li fanno tutti gli affari col Kazakistan. Ma io adesso non so di che tipo di affari, se c'è un contratto dell'ENI con un paese... Altro che contratto. Bisogna fare affari... Parenzo, ma io in questo sono come maestro, come il comandante Mao, eh. Non importa di che colore sia il gatto, è importante che... Quando si fa la doccia vuole l'acqua calda. Ah, non c'è, io non c'è dubbio. Dunque? Parenzo si fa la doccia con l'acqua non calda. Non sempre e dunque realpolitik, realpolitik... Ma no, noi importiamo tutte le materie, purtroppo. Diciamolo chiaramente, è una balla questa cosa qui che non si devono fare affari con i dittatori. Cioè, se serve, anche quelli... questo non è che c'è etica, ci può essere grande etica. Ci si possono fare tranquillamente affari con Nazionale. Solo i sognatori pensano questo. O no? Si fanno affari con le società che gestiscono. Vabbè, che i governi sono quelli là, non sono le società. Su, Sposetti, è un realista, è un vecchio comunista. Ma è un pragmatico. Ma io sono... Beh, questo non mi scandalizzo. Appunto. Poi questo qua, ha visto le foto oggi della casa che aveva a Londra, non era proprio un dissidente tipo Sakharov, un poveraccio questo qua, questo io abbiaco. Sto attenti, in queste cose, queste vicende sto abbastanza attento. Leggo molto e non mi pare che noi dobbiamo... Abbiamo commesso una sciocchezza, pare che il ministro Alfano ha messo dentro questa catena di comando qualcosa non ha funzionato. Ma poi alla fine ha pagato solo il capo gabinetto. Ma, vabbè, ma che roba, problemi del ministro. Comunque il governo non può cadere per una cosa di questo tipo. Assolutamente no. Non deve cadere. Assolutamente no. Ma come? Ma non è una cosa grave? Prego? Veramente gravissima. Il fatto che una donna, una figlia, una bambina, 50 poliziotti... Queste sono le esagerazioni quando in Italia si gestisce in generale l'ordine pubblico, no? Avete visto il sindaco di Terni, quello dice l'ombrello del dipendente dell'acciaieria del lavoro, invece è un'altra cosa. Cioè in Italia queste cose le gestiamo, ma da tutte le parti. Un po' alla cazzo. No, insomma esageriamo un po', bisognerebbe essere un po' più cauti. Chi è il leader del PD oggi? Epifani. Sì, ma il leader vero. No, leader. Leader. Segretario Epifano. Sì, Epifani. Sì, Epifani. No. Sì. Sbaglia pure il nome, Epifano. Naturalmente. Ma Bersani adesso... che fine ha fatto? Sì, Bersani. Bersani, io ho parlato pure l'altro giorno. Naturalmente. Sì. Tranquillo. Io sosterò. Sì, Bettola, sta lì a Bettola, Piacenza. Bettola. No, stava alla camera. Però io non vedo militanti. Io adesso. Lavoro perché Cooper lo sia segretario del partito. No, lei Gianni appoggia Cooper. Cooper. Appoggia Cooper. Le pareva che lei non appoggiava Gianni Cooper. No, come le pareva? Ma è chiaro, la sinistra. Ultimo segretario della FIGC, tra l'altro. Vabbè, ma chi se ne frega? Non sai la storia. Lui di c'ha questa cosa che quelli che chiudono a me danno un po'. Perché lui ha chiuso. Però lei, io non ho visto, girando un po' per le feste del PD in queste settimane, non ho visto i militanti con le magliette di Epifani, cioè girare con le magliette con la faccia di Epifani. E vabbè, ma come mai? Dove sei stato? Sono stato un po' l'altra sera a fare una cosa un po' di feste del PD. Non ho visto però i fan, no? I pullman per Epifani. Abbiamo capito non che c'è uno che no, Epifani non è stato eletto da un congresso. Abbiamo capito che il senatore Sposetti Berlusconi non gli fa schifo, stare al governo con Berlusconi non gli fa schifo. No, adesso non esageriamo. Non le fa schifo, cioè, non le fa schifo. Di necessità virtù. Non le fa schifo stare al governo. Dobbiamo con Berlusconi. Dobbiamo votare, dobbiamo provare i provvedimenti che servono per le famiglie italiane. Non è che le fa orrore, è stato pure fotografato a bere caffè con Verdini. Viva Dio, eravamo in un luogo pubblico. No, vabbè, per lei cioè, non... Io parlo con tutti. Appunto, cioè, no, ma per carità. Ho buonissimi rapporti, sarà per il mio carattere, ma io parlo... Ah sì, quando si devono ridare i soldi ai partiti, se bisogna fare una battaglia per... Quanti nel PDL sono d'accordo con lei? Moltissimi, sul far restare questa legge sul finanziamento pubblico, mi dica la verità. Quando il provvedimento arriva al Senato io farò proseliti. Proselitismo di quello, sì, di quello che cioè, annunciamo, la legge è già morta. Farò mettitela via, Letta. Questo si può dire, caro presidente, mettitela via perché questa battaglia l'hai persa. Pensa a recuperare le kazake anziché togliere i soldi ai partiti. Questo lo possiamo dire. Pensa a recuperare le kazake. O no. Questo sarebbe più. Più civile piuttosto che togliere i soldi a parte dici un euro, due euro ai partiti, no, recupera. Ne vanno tolti tutti i soldi ai partiti. Tu sei antidemocratico. Uno deve bussare alla porta degli italiani, fare toc toc toc, mi date i soldi per fare politica per favore? Se non ti danno i soldi per fare politica, Luciani, arrivederci. Luciani come? Che c'è? Compagno, 10... ti rimetti in linea, sì, dimmi, compagno. Il 2 per 1000 di 10 milioni di pensionati, quant'è? Il 10 per 1000? Il 2 per 1000. Non mi faccio il 2 per 1000. Non lo so, è complicato. 10 milioni. È zero, praticamente zero. Allora, che non ha sì. Il 2 per 1000 dei proprietari del Sole 24 Ore, quant'è? Non lo so, non mi faccio fare questo. Ma che vuol dire? Cioè, Sposetti dice. Perché quella è la norma più sbagliata di quel disegno di legge, perché ci sono da una parte i padroni e da una parte i poveracci, e questo non funziona. Ma non è così. Ma sì, Cruciani, ma noi tre non abbiamo mica lo stesso 7.30 o lo stesso Wood. Ma lasciamo perdere i tecnicismi. Io voglio che non dare più un euro dei miei soldi ai partiti. Potrò, Sposetti o no? Assolutamente. No, invece no, con quelle vuole mantenere un sistema in cui io anch'io do un sacco di soldi ai partiti. Non li voglio dare, voglio scegliere di darli. Se non è così il punto. Questo è il punto. Lei invece si batte perché anche se io non voglio, i miei soldi escano e vadano ai partiti. Anche per mantenere il suo stipendio, peraltro. Beh, il suo... scusi, è così. Qui ha fatto una stoccatina. No, anche per mantenere il suo stipendio. Cioè, tu praticamente stai mantenendo Sposetti. Beh, tutti noi stiamo mantenendo Sposetti. Beh, io sono felice di mantenere il suo Sposetti. Io la mantengo, Sposetti. In parte la mantengo. Ti sta per sputare in faccia. Ma perché? No, è giusto, io la mantengo. Ti sta per sputare in faccia. Ti sta per dare una testata, capito come si faceva? Vecchio servizio d'ordine del PC quando funzionava. Io la mantengo e mantengo anche il Partito Democratico, i 200 dipendenti del Partito Democratico. Una piccolissima parte dei soldi che io do per le tasse. Vanno anche la democrazia. Ma io tengo moltissimo alla democrazia. Ma lei quando va a votare, Luciani, quando va a votare deve sapere che oltre al voto destina ad oggi, destinava prima del 2012, nel 2012 destina 0,40 centesimi. Cioè meno di un caffè. Metà caffè all'anno alla democrazia e quindi anche andrebbe portato a un euro anche per partiti. Ma è contento, lei questo. È contento che Grillo adesso sia un po' così in rotta? È contento? No, in generale. Ma no, è la conseguenza quando uno non è partito, no? Perché se uno guardano adesso come Parenzo sta sempre a guardare, sta sempre le notizie, il flusso delle notizie. E poi finisce, mi sa andare a parlare con la gente, con i lavoratori davanti ai cancelli, la cosa. Io lo dico, scusa, ma adesso io domani sera sto a Rimini a inaugurare la festa dell'Unione. Lei sta sempre in giro, sì. Certo, vado in giro. Scusi un attimo, ma ci vuole tempo, cioè, si spende quando si gira, non è che si deve fare la cosa, però si va a parlare. C'è un lavoro quello, certo, andare in giro alle feste del PD, a parlare, a incontrare i giorni a Roma, poi parti il venerdì, ritorni il sabato. Che pomeriggio. Vogliamo dire al signor Travaglio? Qualcosa di nuovo al signor Travaglio? Vogliamo dire qualcosa di nuovo? Fermi, eh. Perché non invita a una festa del PD? Che è successo al Travaglio? Perché? Lo vorrebbe fare un confronto perché con voi avete detto delle cose dalla trasmissione e quello mi ha querelato. Ah, ti ha querelato? No. Ma veramente? Cioè? Sì. No! Sì, sì. E quanti soldi vuole? No, non lo so ancora, ma è il direttore, no? Il direttore che è stato direttore dell'unità. Padellaro, no? Carino, È una cosa, un ragazzo simpatico. Ah, cioè Padellaro l'ha querelata? Una cosa pazzesca, vabbè, comunque. Sì, io ho querelato pure loro, no? Contro querele. Va bene, grazie a Sposetti, grazie. Bravi, complimenti, bravi. Ciao. Francesco da Firenze, buonasera. Pronto? Sì, buonasera. Vada. Buonasera. Innanzitutto, grande Cruciani, avanti così. L'ho sentito un po' in difficoltà, Sposetti, sulla, sul finanziamento. Beh, è in difficoltà. Beh, io dico la mia, lui dice la sua. Se è in difficoltà. Ma chi era in difficoltà, Sposetti o Cruciani? Il 99% degli italiani sono con lei. Ma sì, contro il finanziamento pubblico, contro i soldi ai partiti, perché i partiti, se vogliono i soldi da noi, ce lo devono chiedere, bussare alla porta, e noi possiamo scegliere se darli o non darli. Come il signor Grillo, come Grillo che comanda lui, non me ne frega niente. Internet, vabbè, qual è il problema? Se non è che ha sempre torto. Vabbè, allora Gianni, sarai sconfitto pure su questo. Infatti voi fate la vostra battaglia, lei si opporrà, eccetera. Francesco, allora? Anche perché tra l'altro sta parlando con uno che ha collaborato con un partito ed è stato ovviamente però retribuito al nero. Allora? Quale denuncia? Perché l'ha denunciato? Vabbè, adesso chi se ne frega. Quale partito? No, peggio per lei. Vabbè, peggio per lei che è stato. Lui. Qual è il partito da cui è stato retribuito? Qual è il partito da cui è stato retribuito al nero? Scusi. È un partito che in questo momento sta sostenendo questo governo. Vabbè, tanto sono tanti. Sono i principali. Quasi tutti. PDL, eccetera. Come sono tanti? PD, PDL, scelta civica, non è a grosso, sarà il PD, lei di Firenze, insomma, più o meno sarà il PD, o no? Ma potrebbe anche sbagliarsi. E allora sarà il PDL. Ma insomma, non è che uno telefona alla radio, fa un'accusa così generale, generica, e poi non si assume. Dica chiaramente, il PDL, cioè il PDL, non mi ha pagato, mi ha pagato a nero. Ma lo va dica. Bene, abbiamo la pubblicità, torniamo, resti lì, 800 24 00 24. Arrivederci anche a Ugo Sposetti, Partito Democratico. Grazie, grazie, grazie. La Zanzara. Eccoci qui. Dove andiamo? C'è ancora Francesco da Firenze. Allora, Francesco, lei è stato pagato in nero da un partito. Vabbè, ce ne freghiamo. Poi. Tanto sta lasciando lo studio. No, io poi. Senatore Sposetti, che salutiamo. Prima, sta alzando. Sta mettendosi la giacca. Allora, Francesco? Telefonavo per esprimere la mia indignazione per questa giustizia italiana che va sempre. Ma per che cosa, scusa? Per esempio? Ho sentito da voi la notizia della condanna per direttissima a 13 mesi per una frase pubblicata su però, internet. Scusi, contro io le condanne facili non mi piacciono, però devo dire la verità, se uno scrive su Facebook o su Twitter o quello che diavolo è, che la Chieng andrebbe stuprata, sarà pure uno scherzo, però non si scherza su queste cose, cioè, su queste cose non è che... Lei naviga sul web? Sì, ma quella là, se uno scrive una cosa sul web, Francesco, allora, quella là aveva anche un ruolo, era un esponente politico della Lega Rossa, è stata pizzicata e paga, punto. Non le sembra un po' spropositato? Come, non mi sembra comunque, spropositato. Non mi interessa perché va bene, anch'io ovviamente condanno e volevo fare il paragone con Massimo Tartaglia che per esempio ha attentato ma alla quello vita è stato, del ma quello è stato dichiarato incapace di intendere di volere. È la giustizia. Se è incapace anche... di intendere di volere. Ho capito, mi pare che lo stesso Berlusconi non se ne sia lamentato di questa roba qui, di Tartaglia. Ma, cioè, infatti, ma io me ne lamento io da italiano. Ma non lo so, guardi, chi tira una statuetta in testa a una persona andrebbe condannato e credo che sia stato condannato. Dopodiché è stato dichiarato incapace di intendere di volere, sta seguendo un percorso di recupero, di cura, non mi pare una cosa così drammatica. Lei dice, mentre a quella per una frase hanno dato 13 mesi, quello là è a piede libero, ma a parte che anche la Valandro, la leghista, non è stata arrestata, non è ai ceppi, le hanno dato 13 mesi. Grazie, Francesco da Pisa. Francesco? Francesco, ma che fa? Simone da Roma. Sì, buonasera. Dica. Pronto? No, niente, io volevo parlare un po' del discorso sulla Chienge, nel senso che avevo letto l'editoriale di Sartori sul Corriere e anche tutti le varie interviste. Vabbè, allora? No, volevo dire solamente che a me il discorso delle poche competenze mi fa un po' sorridere perché una persona più competente del ministro in tema di integrazione, visto che è partita dove è partita, è arrivata dove è arrivata, poi magari sarà anche una statuina, non lo so perché l'hanno messa lì. Però insomma, il discorso che è poco competente, quando abbiamo avuto dei ministri... Un attimo. Cosa? Sono Agostino? Agostino Pedrali. Risponde. Niente. Pronto? avete fatto il numero giusto, ma al momento sbagliato. Lasciate un messaggio, dopo il segnale acustico verrete richiamati. Grazie. Beh. Pronto? L'assessore Pedrali, non so se sia suo questo numero, siamo noi della Zanzara, la vorremmo chiamare per quello che lei oggi ha scritto su Facebook a proposito del ministro Chiang. Siamo persone gentili, educate, non facciamo niente solo di male. Solo qualche domanda e capire perché lei ha messo la foto del ministro con uno scimpanzé e ha scritto guardate, sembra una scimmia. E poi altre cose che lei ha scritto sempre sul ministro Chiang. Siamo brave persone, non siamo dei criminali. Raimondo dalla provincia di Padova. Signor Cruciani, buonasera, sono Raimondo. Intervenivo per il discorso che ha fatto prima per quanto riguarda che lei non dà voce alle persone che si interessano per l'abbandono degli animali. Ma non è vero, non ho detto questo. No. Ma perché adesso lei... Lei ha detto, a me non me ne frega un cazzo. Io lei non ha detto così, signor Cruciani. Raimondo, allora, io ho detto una cosa. Ho detto una cosa. Della questione, dell'appello, eccetera, eccetera, non me ne frega niente. È ovvio che non sono d'accordo con l'abbandono degli animali. Dopodiché non faccio campagne per nulla, in particolare non faccio campagne nemmeno contro l'abbandono degli animali. Sono disinteressato. Okay, dopodiché sono invece interessatissima alla sorte degli animali che sono abbandonati e sono contro l'abbandono degli animali. Distinguiamo le cose. Non faccio campagne, ma sono interessato agli animali che vengono abbandonati. Cioè, mi fa schifo uno che abbandona un animale. Cioè, non lo farei... Punto. Ho capito male perché comunque lei non ha dato voce a chi stava comunque. Ma non me ne frega niente di dare voce su questa cosa qua. Non faccio una campagna, capito? Anzi, ho mandato lo spot di Rocco Siffredi che espressamente dice: mi inculo chi abbandona gli animali. Proprio così dice? Dice così, non lo dice, anzi, lo dico io, tanto per far capire. Ma andiamo un attimo, Siffredi. Allora, ragazzi, buona vacanza a tutti quanti e mi raccomando, non abbandonate il vostro cane. Se no arrivo e vi inculo. Anzi, lo dice esplicitamente. Ho capito però. Ma è Rocco Siffredi. Ma ho capito. Però. È una minaccia seria, magari, magari ha effetto. Ragazzi, ma questo è una cosa pazzesca, però. Scusa. È la radio del Sole 24 ore. Tra l'altro, ma scusa. Allora, Raimondo, che c'è? Niente, ero contrario, ho capito male praticamente. Avevo capito che lei non ne fregava un cazzo, come ha detto. No, ma non me ne frega niente della questione, nel senso non sono appassionato. Posso confessare di non essere appassionato. Cioè, uno deve avere passione per questa roba qui e con la passione, diciamo, poi la trasforma anche nella sua attività. Non ho passione per questo argomento. Cosa le devo dire? Io glielo dico anche esplicitamente. Non è che non ho mai fatto una battaglia. Poi mi dispiace, per carità. Io per esempio non ho animali perché oggettivamente non avrei il tempo e il modo di curarli, ma lo dico esplicitamente. Vabbè, sì. Cioè non mi nascondo dietro l'ipocrisia, capito? Non sono ipocrita. Patrizia da Roma, buonasera. Buonasera. Signora Patrizia, immagino, come sta? Immagino già la sua reazione, io comunque la vorrei pregare. Non sarebbe il caso di riacquistare un linguaggio leggermente più appropriato? Può darsi, può darsi. Io sono una persona che le parolacce le usa, però le garantisco che questo imbarbarimento totale della lingua che si riflette nei costumi è quello che produce il brodo di cultura per Calderone e Company. Io gradirei molto. Adesso l'accostamento. Lei sia intelligente, mi fa finire per cortesia, grazie, poi riprendo a parolacce. No, io non la voglio prendere a parolacce perché non prendo quasi un attimo moderare il suo linguaggio. Va bene. Semplicemente perché signora Patrizia, parlare e di esprimersi diversamente. Signora Patrizia, il problema è un altro. Il problema è che qui non è l'Accademia della Crusca, non è il nessuno pranzo, pretende non è il pranzo di gala, non è Rai Educational, qui non ci sono, si stacchi pure la spina. No, vada, non sto staccando. Allora, nulla. Io dico di andare. Non si pretende Rai Educational, non si pretende l'Accademia della Crusca. Ha ragione perfettamente, la ringrazio di avermi corretta. Non si pretende l'Accademia della Crusca, non pretende l'Accademia dei Lincei, però un linguaggio meno barbaro probabilmente serve a tutto il paese. Sì, grazie, a tutto il paese. Buonasera. Lei sta esagerando come al solito perché qui non c'è nessuna barbarie, si usa un linguaggio crudo ogni tanto, la specialità della casa. Se piace, bene, se non piace, pazienza. Alfonso dalla provincia di Alessandria, buonasera. Ciao Cruciani. Dica. Senti, stavo stavo passando sulla tangenziale ovest, no? Sì. Settimo milanese, l'area di servizio, sono andato nei bagni. Sì. Porca miseria, ci avete una pubblicità fatta dentro di quei bagni, vi conviene andarla a leggere? Cioè, in che senso? In che senso? Scusi, non voglio indagare più di tanto. In che senso, signor Alfonso dalla provincia di Alessandria? Ho il terrore di indagare. No. In che senso la pubblicità, Alfonso? Mi dica che sono curioso, nei bagni dell'autogrill. No, parolacce non ne dico, brutta. Ma che vuol dire? Che vuol dire che c'è scritto? Che cosa c'è scritto? Quello che c'è scritto di tutte le cose brutte della vita. Ma su chi? Non voglio dire su di voi. Ma su di noi, sì, nei bagni dell'autogrill? Su Cruciani e Terenzio, sì. Nei bagni Terenzio? Della... Ah, meno male che è Terenzio. Nei non bagni è dell'autogrill? Anche Cruciani, sì. Però Cruciani e Terenzio. Sì. Cruciani e sì, Terenzio. Cruciani e Terenzio. Ah, meno male, non Cruciani e Parenzo, sarà un altro. Siamo gli autisti che voi offendete sempre, però non c'è problema. Noi vi sentiamo. Ma quale autisti che offendo? Alfonso, io non offendo nessuno. In particolare non offendo gli autisti, combatto e dico la mia in maniera esplicita, anche qualche volta cruda, ma certamente non offendo. Comunque mi dispiace che per esempio parlano male di due persone così, questo volevo solo dire. Cioè parlano male di Cruciani e di questo Terenzio, però tutti e due, sì. Ma che dicono nei bagni? No, meno male che è Terenzio. Ma non ho capito, ci sono delle scritte nei bagni dell'autogrill, non ho capito. Bravo. E vabbè, ma le scritte nei dove diranno che tu e questo Terenzio è una brutta pubblicità, non è solo, ve lo volevo solo avvertire, solo questo. Ma che c'è in quale autogrill in particolare? Allora, Settimo Milanese, direzione Varese. Sì. C'è un'area di servizio, autogrill, sì. Nei bagni, sono 5 bagni, cioè per scrivere quelle cose sono stati, secondo me, una giornata sana, tutti e 5 bagni. Siamo andati io e mio collega in bagno, siamo usciti, ci siamo guardati in faccia tutti e due, ho detto guarda che scrivono sui due che noi sentiamo per radio. Questo. Cioè su Cruciani e Terenzio. E Parenzo? No, Terenzio ha detto. Ma che scrivono? Delle cose personali? Che scrivono? Non andiamo nei minimi particolari. Vabbè, faremo un'indagine. Bravo. Grazie Alfonso, pubblicità. Ciao. Comunque vi ascoltiamo sempre. La Zanzara. Well now little mosquito there must be well some reason for you that I just can't see. Well there is. Well you're right son, you see God put me here just the same as he put you, so I'm nature's mosquito. Siamo qui 800 24 00 24. Fabrizio dalla provincia di Latina, buonasera Cruciani. Vada. Allora, una premessa, troppe parolacce. Così, Senta, qui è 20 minuti che non diciamo una parolaccia, non rompa le scatole, sarà anche mezz'ora. Poi le posso fare un trattato sulla parola. Gli ha detto un paio di volte cazzo, cioè magari. Guardi, che cazzo non è una parolaccia, basta con questo. Ce l'hai sempre in bocca sto cazzo, capito? Non è che magari così. Come dici? Magari pure piace. È arrivato il... Lei è un personaggio, però prima dice troppe parolacce. No, poi troppe volte cazzo. Troppe dice. Volte. Poi dice... Ma sì, troppe volte, no. E poi si avventura in questa descrizione ridicola. Questa battuta ridicola. Non è un attacco contro di voi, per carità. Ma lei può fare tutti gli attacchi che vuole. Io sempre. Lei può tutte fare... Tutte le sere, mi ascolto tutte le sere, quindi... Lei a può fare... A parte la premessa, ma cioè, per farmi contattare da Rocco Siffredi, come devo fare? Ma perché? Che deve fare con Rocco Siffredi? Un film? Mi piacerebbe, che ne so, fare qualche filmetto. E perché lei che ha di come caratteristica, scusi? Insomma, sono abbastanza prestante, insomma, dai. Vai, ma lei è malato, cioè, scusi. Perché sono malato? Cioè, chiama noi per avere un conto. Però così freddo non lo posso favorire, perché? Lei chiama... Non c'ho agganci, ma sì, ma vada su internet, faccia i provini, che cosa ci interessa a noi, Fabrizio? Cosa ci interessa? No, magari, siccome che magari l'ho così freddo, magari potrebbe sentire la trasmissione e voi magari potete fare la tramite. Ma non ci penso nemmeno lontanamente, che faccio? L'agente dei pornostar, su, Fabrizio, non diciamo stronzate. No, magari alle si rivolga volte, ai centri locali di una scintilla per accendere incendio, insomma, no? Ma quale scintilla? Si rivolga ai centri locali di reclutatori di pornostar italiani, ci sono in tutte le città italiane, basta andare su internet. Grazie Francesco da Novara, buonasera. Amore mio, ciao! Tesoro, come stai? No, ma non è a te, ascolta, mia moglie che sta arrivando a casa anche lei. È uguale. I pacchetti con le vongole, perché l'ha promesso e quindi adesso deve Ma noi che cosa ci frega adesso che lei fa un appello a sua moglie per dire sto arrivando a casa? Ma abbia pazienza, e tanto la trasmissione è quella che è, quindi mi faccio utilizzare questi 15 secondi per... Sì, ma non ho capito, vuole dire alla moglie che state... Sì, vuole dire alla moglie che sta arrivando a casa che prepari gli spaghetti, va bene Francesco? Splendido. Detto questo, volevo intervenire su Calderoli, perché siamo alle solite, l'imbecille di turno che si sveglia la mattina ed etichetta le diversità. Pronto? È a fondo razzista. E quindi cosa vuole che le dica? Teniamocelo. Gli spaghetti al dente, Paola. Ciao, un bacio. Ciao. Sergio da Novara, vabbè, un malato di mente, sì. Sergio da Novara. Questo è matto. Sì, vabbè, ma succede. Sergio. Questo tele... Pronto? Sì, vada, Sergio. Salve, io volevo intervenire e dire che la vostra trasmissione rappresenta il degrado che c'è in Italia. Oh, finalmente una cosa... Il degrado? Una cosa positiva, su, bello, una bella definizione, mi piace tantissimo questo, lo dico sul serio, Sergio. Il degrado? Sì, il degrado, ma è stupenda questa cosa. No, vi spiego perché. Ma a me piace tantissimo questa melma, il fango, il degrado, mettere le mani nel degrado, rappresentare in parte anche il degrado. Sono entusiasta di questa cosa, Sergio. Lei mi sta dicendo una cosa fondamentale. Anche perché vi chiamano, vi insultano, io sinceramente non riesco a capire come possiate resistere. è una prova non indifferente. E questi insulti risultano come... una cosa giornaliera anche, io prima di due interventi di persone, insomma, delle volgarità. E allora? E niente, questo era il mio intervento. Cioè lei ha perso mezz'ora di tempo per stare al telefono per dire questa stronzata, ma una cosa pazzesca, traffico. La zanzara. È tornato a tuonare Don Giorgio De Capitani, prete della provincia di Lecco, Bergamo, non mi ricordo. Prete anti Berlusconi. E anti-berlusconiano, soprattutto anti-leghista. Innanzitutto se la prende contro Don Merola. In una intervista alla Zanzara di Radio 24, Don Luigi Merola avrebbe detto di Berlusconi e di Cosentino solo dei perseguitati. Don Merola è conosciuto come il prete anti-camorra, che però ha un feeling del tutto particolare con il cavaliere d'Arcore. Berlusconi, così ha detto questo prete, è un peccatore come tanti altri. Lo assolvo per il fatto che fa mangiare 80.000 famiglie in Italia. Non sarebbe meglio chiamare questo prete come il prete pro camorra? Poi se la prende con Cicchitto, senti. Cicchitto, che non sai che cos'è l'umanità, non ti appartiene. Poveretto, tu vivi nel tanfo delle stanze del cavaliere. Ma datti all'ippica. Ma datti all'ippica. Questo è un prete. Questo è un prete, Don Giorgio De Capitani. Cicchitto. Senti contro i Berluscones. Senti. Tutti a tuonare contro una fretta definita sospetta. Oramai è scontata anche la reazione dei Berluscones. I soliti leccaculo, le baldracche. Adesso me ne do qualche nome, no? Sandro Bondi, Fabrizio Cicchitto, non può mancare. Renato Brunetta, piccolino Piscinella. Gaetano Quagliarello, che nome. Perfino Angelino Alfano. E Maurizio Lupi, che lui Piscinin, Ciellino, Spetacià. E poi Daniela Santanchè, ormai, anche da sempre, dappertutto, no? Ormai la vedi sempre lei. Chissà cosa fa tutto il giorno, perché... Maria Stella Gelmini, Beatrice Lorenzini. Ma cos'è sta lista che fa? Don Giorgio De Capitani è tornato. Siamo con Maria da Roma, buonasera. Buonasera a voi. Dica. Dottor Cruciani, io trovo molto offensivo quando i giornalisti, gli attori, i politici dicono non più in Italia ma questa Italia. Trovo questa parola veramente orribile. Per cortesia non la usate. Una questione fondamentale. Vabbè, adesso signora, questa Italia non Italia, non mi sembra fondamentale. Questa non la dovete usare perché crede che sia molto offensiva. Già lo dicono i stranieri, a noi ci chiamano popolo di merda, italiani popolo di merda, basta che lei gli fa una multa oppure gli dice di spostarsi dal marciapiede perché l'hanno invaso, Allora si chiamano italiani popolo di merda. Signora Maria, però io non ho capito bene la natura del suo intervento, se esiste questa. Allora a noi i stranieri ci offendono sempre. Noi che cosa dobbiamo fare quando ci offendono? Ma chi offende? Non offende nessuno. Ma ci offendono sempre, continuamente. Lei vada via del corso. A destra e a sinistra ci sono tutti i lenzuoli per terra, via del corso a Roma, non so altri posti. Via del corso a Roma invase dai stranieri con i lenzuoli per terra, con le borse false, a destra e a sinistra, e che in marciapiede ormai l'hanno tutto Vabbè. Preso loro. Mandiamo un po' di ambulanze, ecco. Beh, sì, una basta. Venite a Roma e venite a vedere. Oppure... Sì, veniamo. Siamo a Roma, signora, siamo a Roma ora. Ambulanza diretta, Cesare da Roma, buonasera Cesare. Buonasera. Dica. Allora, io ritornavo al discorso del finanziamento, perché sembra che gli italiani hanno sempre la memoria corta. Noi abbiamo la caratteristica, andiamo da un opposto all'altro, no? Ci dimentichiamo dello scandalo delle banane, dei tabacchifici. Cioè, invece di trovare un equilibrio, dobbiamo riservare la politica a chi se la può permettere, quindi a Berlusconi, a Grillo, oppure a questo punto, se io voglio fare politica, mi faccio sponsorizzare da una bella banca, riesco a ingaggiare Crozza, riempirò anch'io le piazze e mi faccio eleggere. Non ho capito bene, lei è contro il finanziamento pubblico o no? No, a questo livello sì, ma un giusto equilibrio che rimanga e non escludere e riservare la politica a chi se la può permettere, come Berlusconi e Ma Grillo. Non è così, no. Miliardari o milionari ci sono comunque anche col finanziamento pubblico, scusa. Non è così. Ma scusa, ce lo ricordiamo lo scandalo delle banane, dei tabacchifici? Allora scusa, io chiamo una banca, come che c'entra? Mi faccio sponsorizzare da una banca, mi faccio eleggere. Ma deve essere tutto trasparente, deve essere tutto trasparente. Insomma, a questo Vabbè. Punto tu... Amico mio, Roberto da Vibo Valentia. Sì, pronto. Vada. Buonasera, senta, così come ha avuto tanti passaggi di denigratori di Grillo che lei come me ha votato e che poi si scopriva non essere elettori di Grillo, io faccio al contrario e parlo del PD, soprattutto il PD calabrese. Intanto quell'entusiasmante performance del personaggio che ho ospitato prima, che ha avuto il coraggio lei di sottolineare che è un parassita pagato da noi, perché in buona sostanza è lui e tutti quelli che lavorano in un partito che non producono assolutamente, ma non diciamo stupidaggini. Secondo me non producono assolutamente niente, e quindi, come giustamente diceva lei, se fossero, ci sono aziende completamente dimenticate e i parassiti dei partiti, dovremmo prenderceli in carico, così come Livia Turco, che quando ha saputo di non essere candidata ha detto ora vado a fare il dirigente del PD con tutti i vitalizi che c'ha, cose no, che lei non ha mai detto vado a fare il dirigente del PD. Vado a lavorare in una cooperativa, non ha mai detto no, nell'immediatezza Livia Turco ha detto tornerò a fare il dirigente. Comunque PD. Per me vale per tutti e anche per gli altri partiti, assolutamente, ma io non voglio polemizzare, io voglio dire solo che il PD, che poteva, e lo dico da elettore del Movimento 5 Stelle, come lei ha ospitato elettori che denigravano il 5 Stelle e invece non l'avevano votato, che il PD ad esempio in Calabria ha messo a capolista una tale Rossi Bindi solo in Calabria, dove suoi colleghi Crociani... Ma lo sappiamo questo, però, ma già lo sappiamo, però, no, Roberto. Però Crociani, lei mi permetta solo questo, come un grido di dolore, né più né meno. Cioè, è questo, è su questo che si deve fondare una nuova politica, e lo dico anche a Parenzo, che presumibilmente ma su questo può avere su cosa? Tendenze... Scusi Roberto, su questo, su sull'indignazione, sul fatto che lei ha il coraggio incredibile, perché ci vuole un coraggio, uno stomaco notevole a ospitare uno come Sposetti, cioè che vale anche a sinistra così come vale a destra, questi soldi sono completamente persi. Quelle persone che sono stati, quei parassiti che lei è sicuramente d'accordo come me, che sono stati all'interno e sono all'interno Roberto, dei partiti, io sono d'accordo parassiti, con il fatto, ma parassiti, ecco tutto qui. Grazie, mentre invece grazie. C'è gente che lavora che purtroppo non ha. Ma sono d'accordo con lei, va tolta la a monte. Va tolta vabbè, l'acqua, ha votato 5 l'acqua, Stelle per questo è d'accordo con me. No, perché ma io ha votato 5 Stelle una parte delle poche di cose, rivoluzione. È una delle poche cose, è una delle poche cose. Mi complimento, né io le ho dette né lei ne ha Pier dette da Bologna, buonasera, Pier da Bologna. Non le diciamo ogni tanto, le diciamo chi se ne frega. Pier da Bologna. Sì, buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Ascolti, io seguo sempre la sua trasmissione, però stasera secondo me avete, lei soprattutto ha debordato. Da ieri voi continuate a sostenere che il governo ha preso o ha messo la ministra King perché bisognava far vedere e che fosse incompetente. No, ma io non ho mai detto una cosa del genere, ma lei è impazzito, io non ho mai detto una cosa del genere. Io ho detto, Pier, scusi un attimo, io ho detto che sicuramente l'hanno messa lì perché è un simbolo, certamente non perché sia una persona, avendo fatto il medico, sì, militante anche del PD locale, eccetera, non particolarmente... Ma in particolare cosa lei può dire che è incompetente? Ma io non ho detto che è incompetente, l'hanno detto gli altri che è incompetente. Io non ho mai detto che è incompetente. Io ho detto che finora ha fatto il medico, punto. Sartori dice che è incompetente, i leghisti dicono che è incompetente, punto. È stata messa lì come simbolo, dopodiché poi il ministro dell'integrazione non deve essere necessariamente un esperto di flussi migratori o cose di questo tipo. Perché non è che il ministro della sanità deve essere un medico, no? Può essere tranquillamente. Lorenzin, ad esempio, no? Non è un medico, ma magari è un bravo ministro. Infatti non ho mai detto che è incompetente, sicuramente è stato messo là in quanto di colore, questo non c'è dubbio, è stato il ministro dell'integrazione, ma non credo, negare anche questo mi sembra una follia. Il ministro, ma invece sì, che è un segnale evidente anche a tutti, è così, ma è evidente che è così, segue l'immigrazione in Emilia Romagna, sono 5 anni, ma infatti, ma è vera sia l'una che l'altra cosa. Dopodiché è bellissimo il fatto che sia stato messo anche come simbolo, perché è un segnale a tutti quegli immigrati di prima e di seconda generazione che sono qui, che guardano il telegiornale e dicono: hai visto che lei, che è cittadina italiana, è di colore del ministro? È un messaggio straordinario. Non dà un buon esempio. L'Italia purtroppo è un paese troppo litigioso, in cui oggi chi non urla purtroppo è incompetente. Quindi in Italia per avere peso bisogna urlare. Bisogna urlare, urlare ad alta voce. E questo non è un bene per una nazione come l'Italia. Vi rendete conto? Va bene Pier, grazie, ho capito. Guardi, io non ho mai detto che è incompetente, anche perché i ministri possono essere fatti anche da persone che non sanno nulla di quella materia, purché si circondino di persone competenti. Certo, sin dall'inizio ha detto di essere d'accordo con l'abolizione del reato di clandestinità a favore dello ius soli, poi ci ha ripensato, eccetera, eccetera. Comunque, al di là di questo, non ho mai detto che è incompetente, mai, mai. Ho detto che ha fatto il medico. Pino da Trento, buonasera. Buonasera. Dica. Non sento niente. Alberto da Firenze. Caduta. Alberto, mi sente? Alberto, Andrea dalla provincia di Alessandria. Sì, pronto. Vada. Ah, buonasera. Niente, io volevo intervenire sul fatto del razzismo, che però è un po' dimenato con la Chienghe, anche i vari cori su Balotelli che hanno fatto comunque notizia. Io credo che sia un discorso direttamente proporzionale sul fatto che l'Italia sta attraversando un po' un periodo di crisi. Infatti l'Italia è almeno da 20 anni che c'è questo flusso. Non ho capito che c'entra la crisi con i cori, anche nei periodi non di crisi hanno fatto i cori razzisti, su, non diciamo stupidaggini, però dai Andrea. Io volevo collegarmi al fatto che con la Chienghe e tutto quanto, il fatto che adesso si parla molto di più di razzismo, magari l'Italia è almeno da 20 anni che c'è un flusso di immigrazione da parte, diciamo, di paesi del sud, del Nord Africa, da parte dell'est europeo, solo che adesso si fa più testo, perché ovviamente essendoci una posizione un po' di crisi, allora si cerca di colpevolizzare come se fossero queste persone che vengono dagli stranieri. Se la prende con gli stranieri. Esatto. Va bene, grazie, abbiamo la borsa, torniamo subito. La Zanzara. Allora, siamo con Pino da Trento, se c'è. Pino? Sì, ci sono, ero in galleria prima, grazie per avermi chiamato. Dica. È uscito da sta galleria o no? Sì, ci sono. Ah, sono già in diretta? Sì, e dov'è? Sì, fino a prova contraria, sì. Ecco, caro Cruciani, finalmente riesco a parlare dopo anni di telefonate. Anni di telefonate, ma benissimo. Sentiamo quello che ha da dire. Io sono di Trento volevo dire, bene. Sì. Mi piace la vostra trasmissione, chiaramente come posso la sento. Sì. Volevo dire, salutare anche il Parenzo, che è perfino simpatico, anche se un bel soprammobile. penso anche soprammobile, grazie. Comunque grazie, simpatico, soprammobile. Simpatico. Grazie per il soprammobile. Fa la sua parte anche lui, perché ci vuole deve vivere anche lui, no? Come le zanzare. Allora io intervenivo, siccome sono di Trento, è successo un caso quasi analogo del Calderoli a Trento, di un vecchio leghista, nel senso che non è più della Lega da anni, è andato in un altro partito e ha fatto una cosa più leggera, e stamattina l'Adige, il quotidiano più seguito, caratteri cubitali, la prima pagina proprio di tutto di questo, come fosse successo, vabbè. E stavo pensando invece a tutto quello che ha detto oggi quello di Italici, insomma, il tale Oscar, mi viene in mente Farinacci era un altro. A me viene in mente sempre Farinacci quando sento lui, no? Ecco, voglio dire che quando parla uno di destra, o soprattutto della Lega, succede il finimondo. Quando veniva offeso regolarmente il Bossi per via i suoi problemi fisici, nessuno però Pino interveniva. Scusi un attimo, Farinetti è semplicemente il padrone di Italy, non è che fa il politico di professione, c'è cioè un imprenditore. Ha il diritto di far entrare nel suo locale chi vuole. Questa come è una stronzata, sua. Ha detto una stronzata. Siccome ha io ho anche l'abilitazione professionale per la ristorazione e ho studiato l'HCCP, invece che lui non potrebbe non far entrare uno perché gli è ma è una battuta antipatico. Che ha fatto, capito, ha fatto una battuta, però quelle della Lega se sono battute non lo sono più, ha ragione Pino, dove volevo arrivare. Ma poi un'altra cosa, volevo dire al Farinetti, che a me viene sempre Farinacci, che se pensa all'igiene, pensa all'HCCP, che se li hanno trovati i vermi da noi gli avrebbero chiuso il ristorante per un po' di settimane a Trento, perché da noi comanda la provincia, perché noi siamo autonomi. Vabbè, allora... è anche un bene. Ecco, volevo dire che quando è uno di colore che viene offeso, vabbè, o la battuta, guardi anche Ballotelli, perché Eto'o, che è nero, non l'hanno mai fischiato gli altri neri della... Beh, anche Eto'o prendeva Ballotelli la sua buona dose di... Ballotelli lo perché rompe, solo per quello. Questo in parte è vero. E Cassano, cioè da fare in piaggia il vecchio Cassano, insomma, che è bianco. Oh, no, non è vero, su questo non ha tutti i torti. Alberto da Firenze, grazie Pino, arrivederci. Alberto. Sì, Alberto, Cruciani. Dica. Senti, volevo dire una cosa, siccome non parlate mai di sesso, sempre di politica. No, veramente parliamo sempre di sesso, Alberto. Io voglio dare un consiglio un po' agli uomini, un suggerimento, diciamo. Ma perché lei vuole dare questo consiglio alle 20:36 qui sulla radio di Confindustria? Scusi, signor Alberto. No, un suggerimento di sesso. Ma perché vuole dare un suggerimento? Ma sono curioso di capire perché. Ha sbagliato radio, ha sbagliato indirizzo. Comunque parlò quella delle Fisherman, si ricorda? Sera, beh, la mitica delle Fisherman, certo, sì, come no? Forte. Allora, forte, con me non andrebbe bene, perché, sì, spiego, allora c'è un pomata che è messa sopra le parti intime, ricatta, una pomata? Sì, una pomata, sì. Una pomata che è messa sulle parti intime, sì, ritarda parecchio la coagulazione. No, però scusi Alberto, adesso lei prende lei prende una pomata che ritarda. Ma perché dovrebbe interessarci poi? Questo che non capisco. Però scusi, perché dovrebbe interessare milioni di ascoltatori il fatto che lei, signor Roberto, Alberto, visti i suoi problemini evidentemente di eiaculatio precox, per parlare in latino, si mette sopra una pomatina? Ma chi se ne frega? No, senza andare dai dottori, perché di molta gente poi va dai medico, reclama in televisione. Ti spiego invece... il discorso, è una crema per le emorroidi, si mette sopra le parti intime. Ma chi se ne frega? Ma perché ce lo deve venire a raccontare? Ma perché dovrebbe interessare ai milioni di imprenditori che sono all'ascolto questa cosa? Perché? Siete gli imprenditori, anche quella le fisse, ma allora doveva portare nulla alla gente, invece ogni tanto interessa. Dunque lei ci sta dicendo, ci sta dicendo che lei usa una crema, una crema nelle parti intime che ritarda l'eiaculazione. Vabbè, d'accordo, sì, abbiamo... però è da adoperarsi col preservativo, perché se no succede dopo ritarda quello e ritarda quell'altro. Vabbè, scusi, è ritardante, utile, arriva più nessuno poi. Ma che lo fai? A quella delle fisse male si intombirebbe la bocca. Però scusi Alberto, no, davvero non riesco a capire, professore, ma è più semplice il ghiaccio, no? Il metodo di, se proprio vogliamo entrare nel merito. Il ghiaccio è un anestetico non sente niente, cioè l'uomo sente nulla, sente molto. Ma perché donna, non si fa curare? Perché però, non Alberto, si fa curare? Scusi, perché lei sente il bisogno di chiamarci per raccontarci questo queste cose? Questo è il punto, questa domanda. Perché è sente il bisogno di chiamarci per raccontare qui alla Zanzara alle 20:38 sulla radio i suoi problemi di Confindustria? Tra l'altro, no, sì. un suggerimento per gli uomini, come tanti danno. Ma lei, ma non è che le persone... Ma perché avremmo bisogno di questo suggerimento, Alberto? Lei, no, ma soprattutto, perché ha sentito il bisogno di fare l'800-24-0024? Visto che oggi sono tante cose di cui parlare, aspettare... c'è il caso Ligresti, tutta una famiglia messa in galera, ad esempio c'è il caso Renzi, no, il caso c'è il caso Kazako, no, e lei ci parla della crema che si mette sul suo nobile pube, ma perché? Il perché? Parezzo, il caso di Grezzi è stato scandaloso perché ieri non ne parlò nessuno, né in tutti i giornali non ne ha parlato nessuno. Comunque, a proposito del caso Ligresti, leggo sul Corriere della Sera il modo in cui si trattava bene la famiglia Ligresti, secondo ovviamente l'accusa. Oltre ai compensi da decine di milioni solo per Salvatore Ligresti, c'erano a disposizione 10 persone tra segretari e autisti, foresteria a Milano e abitazione senza contatto, con abbonamento a Sky e 3 auto, pur essendo formalmente solo presidente onorario. Per Ionella 5 persone più uffici a Milano e casa a Roma e 6 auto. Per Giulia 8 persone, di cui 4 che lavoravano per la sua società di moda. Gilli, pur essendo dipendenti di Premafin e Milano Assicurazione, più uffici e casa a Milano e 5 auto. Per Paolo 8 persone più uffici e casa a Milano, 9 auto e 1 scooter. Tutto questo ovviamente a carico delle società, secondo l'accusa. Alberto, lei quante volte la mette questa crema? Ancora. Ma ancora no, non la metto più questa crema, no, non mi serve. E perché non la mette più? Allora, non solo lei ci ha raccontato questa cosa, ma nemmeno mette più questa crema. No, non la metto più questa crema, 54 anni non serve più. E beh, che c'entra? Perché non serve più? Questa è una crema magari per chi, insomma, è alle prime armi, diciamo. Addirittura? Certo. Vabbè, Alberto, grazie. Lorenzo, Lorenzo da Vicenza, buonasera. Sì, salve, buonasera Cruciani. Dica. E buonasera Parenzo. Gli mando i miei saluti dell'avvocato Ellero, quello che mi collegava. Ah, come no, Ellero, grande avvocato Ellero, me lo ricordo benissimo. Allora? Sempre in negozio da me, così tanto gli mando i saluti. No, volevo parlare del ministro Chieng. Ricordiamo un attimo, l'avvocato Ellero è quello che fece quel casino. Sì, il libro di Fini. Sì. Comunque, allora... no, ti dico che mi sembra un po' un'esagerazione che ogni cosa si dica su di lui venga punita, tipo parlavo della leghista di Padova, adesso io non mi ricordo che ruolo aveva, però un anno e 3 mesi per aver messo su Facebook certe dichiarazioni. Ragazzi, però uno poi protesta che in Italia non paga nessuno, che nessuno paga per quello che dice. Una volta che una invita le persone a stuprare la Chieng, gli danno 13 mesi. Hai esagerato. Ho capito, dire. Ma non è una cosa da poco, se uno scrive incitando allo stupro nei confronti di un ministro o nei confronti di qualsiasi persona, non è una cosa, non è come dire se è uno stronzo, se è una testa di cazzo. Tra l'altro. Cioè, sì, è vero, e allora appunto, cioè, è stato condannato a 13 mesi in galera, non ci andrà, perché non ci andrà, appunto, e basta. Però mi sembra tutto... Cioè, allora andiamo a vedere tante altre accuse, tante altre cose, che ne so, da noi abbiamo qua a Vicenza, quindi dal Molin, che bruciano le bandiere dell'America, anche quello è un reato grave, secondo me, non so, per dire, per un esempio. Lorenzo, adesso, voglio dire, gli insulti comunque, quando uno li porta in tribunale, viene condannato, se uno insulta deve anche prendersi la responsabilità di quello che dice e le conseguenze di quello che ha detto. Flavio dalla provincia di Parma. Sì, Flavio. Ciao, buonasera dica, a tutti. Dica. Un saluto a Parenzo che viene bistrattato, ma no, è un ma grande. Combatto, ciao, grazie. Ciao caro, ciao. Io volevo cercare di capire con voi, ma che cazzo, cioè, ma perché il Partito Democratico è diventato il capro espiatorio di qualunque cosa? Cioè, a parte Grillo e Casaleggio, voglio dire, chi gli è venuto in mente di portare il dibattito del paese su un populismo e un appiattimento allucinante per cui l'unica cosa sembra il rimborso elettorale, non so, queste cagate qua. Ma cioè, qui ha sbagliato Alfano, no? Un attimo. Chi è questo, solo Luciano? Chi dovrebbe essere questo Luciano? E aspetta, se lo diciamo anche non questo, va bene. Anche questo è vero, è poco saggio. Sai quanta gente è in macchina in questo momento che gli squilla il telefono e non risponde? Perché c'è il ritorno? È come fossimo in montagna. Cruciani. Va bene, Flavio, allora? Sì, No, sono rimasto, voglio dire, ma cioè questo appiattimento portato da Grillo e Casaleggio, per cui qualsiasi cosa adesso, il rimborso elettorale è il problema più grande dell'Italia, no? Come se togliendo quello da domani tutti i Mercedes, tutti in Porsche. Ma a parte questo, perché il PD è capro espiatorio? Cioè, questo è un l'errore, chi l'ha fatto? Ma il capro espiatorio di chi? Scusi, non ho capito bene. Il capro espiatorio di che cosa? Il Partito Democratico? Non ho capito bene. Ma non è, ma sì, scusi un attimo. Ma capro espiatorio di che cosa? Flavio, il punto fondamentale è questo: c'è un ministro dell'interno attaccato da una parte del PD. È arrivato Napolitano, oggi ha detto questo governo non può cadere. Esatto, è questo che dico. Ma è quello che hanno fatto con Monti l'altra volta, quando Napolitano è andato a prendere per l'orecchio Berlusconi e ha detto: guarda, siamo nella merda, si devi dimettere, no? Che cosa è stato un anno fa? Due anni fa. Allora. No, niente, voglio dire, ma cioè, io trovo allucinante questo che nessuno si renda conto di questa cosa. Cioè, ma di cosa si deve rendere conto? Come, di lanciarsi sul PD, perché non so. Ma chi si sta lanciando sul PD? Chi si lancia sul PD? Non ho capito chi si sta lanciando sul PD. Perché la idem si deve dimettere? Cioè, se sei del PD, si deve dimettere. Ma non è questo il punto, PD o non PD? Il PD è diviso, è tormentato, sta con Berlusconi, ma non sta con Berlusconi, ma fa finta di non starci. Alcuni sono consapevoli, altri si vergognano. Ovviamente c'è Renzi, ci sono, c'è Renzi che giustamente forse è quello che vabbè, abbiamo il traffico, Flavio, io non ho capito il suo intervento, ma qualcuno ce l'ha col PD, nessuno ce l'ha col PD, spesso si fanno male da soli, traffico. La zanzara. Non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, non mi molesti moschito, why don't you go home? Voglio ricordare che c'è in Kazakistan un italiano in galera da qualche anno, da 3 anni. Per aver fumato? No, per avere un etto e 20 grammi di hashish. Trovato con un etto e 20 grammi di hashish, ex manager dell'ENI, 58 anni, con una condanna di diversi anni di carcere, portava. Si era portato questo hashish dall'Olanda, da Amsterdam. E lì ha sbagliato. Non si, vabbè, sicuramente ha sbagliato. Un suggerimento agli amici all'ascolto: non se dovete portare, diciamo, dell'hashish all'estero, come insegna Cruciani, usate altri sistemi. No, io non ho detto affatto questo. No, dico mettetelo dentro il bagnoschiuma, cioè usate, no, come si faceva da ragazzini, no? Lei lo sa bene, signor Cruciani. La madre ha fatto. No, non lo so perché non ho mai fumato una canna in vita mia. La madre si chiama Maddalena Cotti Sidagni, è una signora di 80 anni. Che ha fatto un sacco di appelli, ha scritto a Napolitano per fare qualcosa contro una condanna assurda, diciamo la verità. Un etto e 20 grammi di hashish, uno non può stare in galera da 3 anni, cioè, anche se è reato per le leggi locali. Ma la nostra politica lo ha dimenticato lì, questo signore? Completamente dimenticato. Sentiamola, ho scritto a Napolitano. Il primo anno io ho scritto anche al Presidente della Repubblica, avevo scritto... E Napolitano non le ha mai risposto? Sì, ha risposto che avrei fatto di tutto, ma poi sono già 3 anni e 3 mesi che è da... Ha fatto un appello anche a Berlusconi, invano. Lei parlò direttamente con Berlusconi della cosa? No, io non direttamente. Qualcun altro? All'inizio era venuto Canale 5 a intervistarmi a casa e allora mi hanno detto di fare l'appello al signor Berlusconi 3 anni fa. Ci fu una risposta iniziale? Non ho capito. All'inizio arrivò qualche risposta dal Premier? No, nessuna risposta. E poi la conclusione: non si interessano, non è il loro figlio. Nessuno si è interessato. Sa, non è il loro figlio e nessuno si è interessato. Mariano da Milano, buonasera Mariano. Buonasera, è un piacere intervenire. Dica. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Buonasera Caro. Senti, io confido nella vostra capacità di stare sulla notizia. Non vorrei che il caso del Kazakistan subisse le stesse conseguenze di altri casi che ci sono stati in passato, 2, 3, 4 giorni di grande indignazione, tante parole, tante prese di posizione, poi pian piano va tutto nel dimenticatoio. Vabbè, vedremo. Io mi chiedo, Io mi chiedo com'è, per quale motivo l'Italia avrebbe dovuto imbarcare così facilmente la moglie di un dissidente kazako. C'è stata questa pressione del Kazakistan sull'Italia, ma perché il Kazakistan può fare pressione sull'Italia? La mia opinione è semplicemente perché c'è l'ENI in Kazakistan e quindi non vedo altra spiegazione. Che cavolo ce ne frega del Kazakistan se noi non abbiamo interessi in Kazakistan? È evidente che c'è una pressione molto forte sulla nostra principale impresa. No, ma io dico una cosa. Grazie. Emanuele da Milano. No, basta. Emanuele da Milano. No, ma se almeno ci fosse stata una strategia nel governo di dire, ragazzi, sono le 20:50, non mi rompete le palle con queste storie. Dai, ma ridateci il nostro dell'ENI. Almeno quello nel suo cinismo avrebbe avuto un senso. Ma questi non sapevano neanche che c'era un italiano lì nelle prigioni kazake. Va bene, Emanuele da Milano, buonasera. Sì, buonasera Cruciani, volevo avvertirla che indago io sui bagni di Settimo Milanese, visto che ci abito molto vicino, le tangenziali di Milano le bazzico parecchio, la ricerca durerà magari un paio di giorni perché non c'è un unico autogrill, però l'avviserò quanto prima di tutto quello che c'è scritto nei bagni, così la tengo informata sui fatti. Se ci sono delle scritte tremende contro di noi bisogna indagare assolutamente. Assolutamente, il popolo deve andare pronto. Fotografate e mandateci tutto. Fotografate in giro per l'Italia, mandateci. Assolutamente sì, signor Terenzio, giusto? Terenzio, beh sì, no, quello che sui bagni è Terenzio, io sono Parenzio. Esatto, indagheremo anche sul nome giusto, non si preoccupi. Va bene, grazie. Grazie, Nino da Catania, Silvano da Bergamo, buonasera. Sì, buonasera. Volevo solo dire una cosa, qui ci stiamo tutti scandalizzando per una cosa, l'altra. Calderoli viene condannato con l'altra di Padova a 13 mesi, però ieri mattina il vostro collega Milan ha fatto un'interessante ricerca lì sui 1500 dipendenti della Camera. Sì, certo. Che hanno uno stipendio iniziale di 405.000 euro e c'è qualcuno che arriva a 405.000 euro su 45.000 euro come primo stipendio. Ma quando mai? Ma lo vede che lei non ha capito nulla, Silvano, su dai. Io sono un camionista, ma le orecchie le ho ancora. Ma quale 4? Ha capito male, nessuno ha uno stipendio iniziale. No, ho parlato per un'ora e mezza. Lei si informi. Quale sarebbe? Ha le orecchie che non vanno tanto bene. No, lei si informi, addirittura non è l'unico. Silvano, addirittura qualcuno arriva a 600 e rotti mila euro, allora, sono 1500 persone. Secondo lei quale sarebbe lo stipendio iniziale dei dipendenti della Camera o del Senato? Secondo lei quale sarebbe? No, non i dipendenti, dietro quelli che studiano le leggi, sono praticamente gente che... Dipendenti? Dipendenti, sì. I dipendenti della Camera e del Senato quanto avrebbero? Sì. 405.000 euro come primo stipendio. Ma dove vive? Ma non è così. Vabbè, chiami il suo collega Milan. Ma non qualcosa. È così, non è 400.000 euro lo stipendio. Un'ora e mezza ieri mattina, sì, fuori. Lei ha capito male. Niente. Allora anche Mastro Pasqua, parlavano anche di Mastro Pasqua. Ma quello è un altro discorso. 1.000.000 euro, ma noi di queste cose che dobbiamo scandalizzarci, non di Calderoli che dice quello che ha detto. Ma certo che dobbiamo scandalizzarci questo, però bisogna dire anche le cifre giuste. Ma bisogna dire anche le cifre giuste. Si può arrivare. Lei si informi, lei mi faccia no, una ma Silvano, si informi lei, perché ne abbiamo parlato anche noi qua. Le cifre le abbiamo date anche noi. Un'ora e mezza ieri mattina ha parlato. 405.000 euro stipendio iniziale. Ma non è così, è impossibile che uno abbia uno stipendio iniziale di 400.000 euro. Si rende conto di quello che dice o no? Lei si informi. No, ma si informi lei. Si informi lei che sta dicendo una stupidaggine. Poi tanto per chiudere un'altra cosa, anche tutti questi extracomunitari ormai ci hanno rotto le palle. Ecco qua, per forza. Allora? Sì, ecco, ci allora mancava quello. Rimandiamo tutti da dove sono arrivati, con le buone o con le cattive, con le ministri cattive. Compresi e non ministri compresi. Mandiamo non tutti via, ma non guardiamo più in faccia a nessuno, mai via, fuori dalle palle. Che devono fare? Che devono fare? Ma ti mettiamo nella stiva e poi ce li buttiamo dentro. E poi buttiamo via. Fuori. Di dove è lei? Dove chiama questo? Dov'è? Bergamo. Bergen, per forza, butti via tutto. No, ma anche un neger? Ti mettiamo nella stiva. Ma e poi sì, ti via. A Bergamo, via. Manco un negro, via tutti, dai. Via dalla stiva. Ormai ci hanno rotto le palle. Sì, ma perché vanno rotto le palle? Ma ci hanno rotto le palle. Ci hanno rotto le palle in tutti i sensi. In tutti i sensi ci hanno rotto le palle. Non c'è bisogno che ve li sto a elencare, li sapete meglio voi sta di noi. Sta lì a ciondolare tutto il giorno. Che ha ucciso l'altra ragazza lì l'altra sera. Io sono sicuro che se succedeva un incidente a uno di Bergamo, sicuramente si fermava, non correva a nascondere la macchina. Ma dove? E già, dove? E già di che si sapeva chi poteva essere stato con questo incidente. Ma di che sta parlando? Diciamo una cosa. Non facciamo di tutta un'erba faccio, ma la maggior parte non facciamo di tutta? Delle disgrazie erba che faccio succedono sulla strada sono questi delinquenti. Ma basta, chiudo. Chiuso. Sì, chiusa. Chiuso. Ciao Silvano, no, chiudo, ciao. Perché se no le direi ancora di peggio. No, cioè, dica. Queste sono cose che vediamo tutti i giorni. Io vivo sulla strada da 40 anni. Sì. E vedo che ogni giorno peggiora tutto. E dove c'è questa gente... è un disastro, non si può più lavorare, non si può più vivere. Peggiora tutto ogni giorno, peggiora tutto. Bene, certo. Salvatore da Napoli, buonasera Silvano. Cosa ciao. Vuol dire peggiora tutto ogni giorno? Allora, innanzitutto buonasera. Nessuno ha smentito fino adesso che Prodi riceve uno stipendio milionario dal dittatore Nazarbayev. Perché riceverebbe, no, secondo le informazioni che vengono da un quotidiano, da un settimanale tedesco, lo Spiegel, insieme ad altri ex leader europei, riceverebbe per conto di una fondazione una direttamente legata. No, è uguale, uno stipendio, una consulenza. No, quello no, che... no, un momento. Oh, senti, amico mio, non andiamo a fare distinzioni. Non è stato smentito finora dal presidente Prodi il fatto che sui giornali tedeschi sia uscita la notizia che lui riceva uno stipendio. Come consulenza, ovviamente, non è che a libro paga fisso, però una consulenza fissa sì. Da parte io del non lo so di Prodi. Presidente kazako. E Schröder che riceve le consulenze da Gazprom. Lascia perdere. Sto dicendo, è vero o non è vero? Sì. È da chiedere. È da capire. Bene. Salvatore. Buonasera Cruciani, buonasera Parenzo. Le volevo soltanto dire che ieri mi avete fatto rischiare grosso, perché avevo bisogno di un'autoambulanza. Sì. Ho chiamato e tizio lì mi ha risposto: mi dispiace, tutte impegnate con la zanzara. Ma veramente sta dicendo? No, ma è una ci cosa sentiamo domani 18:30, grazie. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, so, alle 8, ragione, lo dica, casa, lo, dica lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Radio 24. La passione si sente.